figlia, vabbè. HP2 hai sentito? No. Dovevo entrare a provare il microfono. Evidentemente c'è un mito. Muovisi a casa. Sei più basso del solito, come mai? Sono i papi, senti a gozzo, ho detto, come mai? Stai arrivando 9, 9 più 5 massimo, aspetta che controllo le stazionali mie perché mi puzza qualcosa a me. Allora, vediamo un po'. No, sembra di no. Strano. Ho pulito tutto il baracchino e il ricevitore con salviette disinfettanti. Disinfettanti proprio. Perché c'erano tutte le cacche di mosca. Capito? Vedono le luci dello smitter, tutto quello che c'è brillante, di lucido, si poggiano e fanno la cacchina, si vede proprio il coso marroncino, un coso di colore, tutto l'ho disinfettato, tutto col disinfettante, che è forte lì, e anche roba che usano negli ospedali, adesso è disinfettato e pulito soprattutto, molto molto bene. L'hai visto il messaggio? Sì. Ripetitore Simplex è come la TX2000. Ti dà il cavo che vuoi tu, funziona con la batteria incorporata oppure con l'alimentatore. Costa poco, tipo 55 euro o anche di meno, anche di meno. È piccolino, è una cosa minuta, se la vedi, Antonella. Il vecchio modello aveva 30 secondi di registrazione, no? Mezzo minuto, che al limite deve abbassare, perché lì bisogna fare passaggi corti, cioè se fai passaggi lunghi alla fine no, tra registrare e rimandare. Il nuovo modello, che è quello che mi sto tentando io, ha 120 secondi, quindi 2 minuti di registrazione massimo. Sai, perché se uno sfora i 30 secondi di poco, non glielo registra, capito, glielo taglia. Per quello che costa una miseria, Antonio, capito? Si può provare. Infatti adesso lunedì mi entra qualcosa, vediamo cosa riesco a fare, dai. Molto molto bene. Chi altri c'è qua all'ascolto? Natalino, Claudio, ci siete? Io già ci sono, sono da poco fa qua. Allora, un biglietto qui a capo. No, rimane così, dai. Lo mettiamo in un punto alto. Aspettate che mi siano accorto di avere ancora i guanti in vinile, dai, me li levo. No, non tutto il campanile. Così quando lo vedi, siamo a buca il campano. Ehi, senti Tomia, stavo disinfettando qua le varie cosette, perché ho notato le mosche, i moscerini, come vedono roba luccicante, tipo le cromature, e lo smitter, fanno la caca sullo smitter, se vedi una piccola macchiolina marrone. Ho disinfettato tutti i baracchini, cioè ho disinfettato sia l'orologino che c'ho qua, sia i baracchini, proprio col disinfettante, quello da ospedale, che mi faceva anche schifo. Tutto a te, c'è te. Allora, la baracchina è cagata, la mocca è cagata, la baracchina. Vabbè, vabbè, ecco ciò che ti faccio. Sì, mettilo lì a Santa Maria. C'è il punto al campanile, lo metti. Così funziona bene. Da pomponio va bene, è abbastanza elevato, se no lo mettiamo a casa sua, a casa tua, chiediamo il permesso, lo mettiamo sopra il terrazzo e sai quanto prende lì. Chi è che deve chiedere il permesso? Come? Chi lo deve chiedere il permesso? A te? No, il terrazzo è tuo, bisogna chiedere a te. No, sto scherzando, da pomponio va più che bene, ma in qualsiasi terrazzo va bene. Te ne immagini se fosse, se non ci fossero tutti quei ponti al grattacielo di Sassari, sarebbe una posizione ottima, perché al centro Sassari, sai, sarebbe ottimale, però lì non abbiamo accesso. Meglio metterlo da pomponio, così se succede qualcosa resta a lui. Io te la posso. Vedi, vedi. Un buon mondetto io a casa mia. No, ma pensa che ci possiamo fare un canale nostro. Se tu hai l'omologato con il ripetitore arrivi forte in tutta Sassari. Cioè forte, arrivi giusto tutta Sassari, capito? Vabbè, più che altro per sperimentare sempre, mi Claudio, costa una miseria. Addirittura sul sito originale costa 50 euro. Su eBay costa qualche euro in più, giusto perché a loro costa mettere in inserzione, no? Visto che la TX 2000 ce lo siamo giocato, purtroppo, ma tanto è la stessa cosa. Addirittura questo pappagallo si può disinserire con i toni DMF. Ma di DMF, scusa, cioè se c'è gente che fa bulo 8 sul ponte, comanda il segnale di DMF e lo disinserisce, capito? Si mette ovviamente un subtono, se ne entrano tutti, magari anche digitale, meglio ancora un subtono digitale, più immediato ad attaccare la portante. Molto bene, Natalino niente, no? Dovevamo andare Platamona a fare un giro, ma questa volta mamma è più risposta, non ne voglia io di andare, capito? Sono tutto barbuto, ho la barba lunga, mi dovrei fare la barba, vabbè, vediamo se andare, dai, vediamo se andare, che voglia non è morta. Quindi Antone, cosa, spiegami in breve, perché stai arrivando basso? C'è problemi al finale? Sì, hanno problemi al finale. Ma il prefinale, che finale che prefinale monta? 21.76. Ah, beh, l'importante è che non sia il finale, che è più raro da trovare. Va bene, prova a chiedere, casomai lo si ordina da internet, a me non ce n'è problema. Lo si ordina da internet sempre che ci trovi, ok? Sì, anche tu, dai. Thank you. siamo Sassari, quindi ma bello, la Marcucci chiude, è in liquidazione almeno, dai. Quindi adesso per la Icom bisognerà trovare un altro importatore ufficiale, perché la Marcucci importava la roba Icom, ma spero si trovi poi. Vai Claudio. Non ti preoccupare, c'è già in pole position la CSON, così c'è tutto. Lei ok, vado a Icom, non ti preoccupare, non rompe il culo a tutti la CSON, vedrai tu. Oh, buono. Anche perché mi hanno detto che la Marcucci era molto cara. C'è una cosa che se la compravi da lui, tipo un portatile Icom, se lo compravi da altri era un coma, ma se lo comprava la Marcucci proprio ti applicava il listino pieno, dice che era caro come una farmacia. E infatti vedo lì, infatti, via che la CSON non è cara, no. Questo per i display del 32, 300 euro, 350 euro. Oh. Vabbè, però sai, certi articoli magari li trovi solo lì. Eia. E la Jeju chi la importa invece, Claudio, che non mi ricordo, la Jeju chi la importa in Italia? Cosa era? Aspetta, non me lo dire. No, dimmelo che non mi ricordo, la Icalo chi era? La Jeju ha comprato la Icalo, la Kimwood. La Jeju esiste ancora, ha comprato la Kimwood. Adesso Marcucci come centro assistenza e vendita sicuramente se ne occuperà la CSON, vedrai tu, e fa delugio a tutti. Eia, tramonta una e un'altra ne sorge, o meglio c'è già CSON, lo so che c'è già. Cioè Marcucci era un marchio storico, c'era da quanto c'era? Da 40 anni, 50 anni, quanto era? 40 anni mi pare, no? Boh, ero ragazzino io quando mi facevo arrivare il catalogo di Marcucci, figurati, una vita, ma non so. Comunque sicuramente adesso la Icom la prenderà, si è sempre letto. Sono bravissimi, ma sono cari come te la brida, cari ma cari, però, mamma mia, però lavorerò bene, eh? Eia. Guarda, ho notato per le cose amatoriali, che sia radio, che sia antenne, la più economica è sempre la Media Globe. Sì, Media Globe si chiama, Media Globe. Infatti l'857 costava meno di tutti alla volta, l'8009 costava meno di tutti. Invece sai chi è bello con i prezzi un po' gonfiati? Am Radio Shop. Cioè quando la CPC la vendeva Media Globe costava 2,60, 2,65. Nello stesso periodo da Radio Shop 320 euro o giù di lì, se non di più. Capito? A prezzi buoni Media Globe. Qualcuno si è lamentato che quando telefono rispondono un po'. Seccati, non lo so, dipende, tua esperienza ne hai mai avuto a Media Globe? No, sono stato una o due volte con un altro per una fesseria. Io come centro assistenza uso sempre CSON e basta, e poi Bianconi per le stronzate, insomma, 4.40, 4.30 l'ho mandato, basta. Eia. E Bianconi, il mago del Kenwood. Ah, Bianconi proprio ci ha fatto un business solo con le messe a punto del Kenwood. Meglio per lui. Vai, Pomponio. Ah, ho notato che il tuo segnale passa tipo da 9.10, poi si abbassa a 9.5 nello stesso passaggio, poi diventa quasi 9. Tende a scendere, capito? 9.24, ma l'ho già detto poco fa. Il segnale è 9.40. 9.20. Lascia perdere Marco. Che c'è una sassa di... che mette a posto i 4.40, i che deve essere un buon inguisciato a Bianconi. No, non posso dire chi è, ma è molto bravo. E non lo fa per come lavoro. sempre funzionato, poi si è fermato per altri motivi, ma il lavoro che ha fatto lui ha sempre funzionato. Ne ho un'altra riparata da lui, che in pratica non so cosa tutto ci voleva, eccetera. Un base UHF funziona meglio di quando l'ho comprato. Quando un appassionato nascono, non ci sono tecnici che con la persona ci avevano i loro, sempre a fare, in tutto e per tutto. Eia. Però sai, Biancone lo fa per tutti, magari lui lo fa solo per amici stretti, dai, non lo fa per business. Dunque, sì, maledetto, molto preparato, quindi buono. Pomponio, che fine hai fatto? Sono qua, attaccato l'altro. Eia, quale altro? Il tornado. Eia, il termine 9 per l'altezza, l'altro. Quando ci hanno anche più 4-8 ore, adesso c'è un barattino che mi hanno regalato, c'ha il coso, i 4-8 ore glieli metto con le 4.000, così a posto. Lui ha detto anche di 9 più 20, se 9 più 50 con questo. È logico, c'è un finale che è in perdita, quindi questo almeno va bene. Capito? Adesso non le dice c'è, glielo cambio e così sono a posto. Va bene. No, io sto andando col capo. Era un po' fermo. Un po' fermo, stavo andando sempre con i baracchini, anche col garage. Adesso ho contato a questo. Poi magari tra qualche giorno andiamo avanti con i baracchini. E questi bisogna usarli, Marco, se no così. Eia. Ehi, anche baracchini, mi non credere, se allora ci fermo. La prima cosa sono sempre conneciatori che potrebbero scaricarsi troppo. Ecco perché bisogna lasciarli. Cioè, quando tu spegni il baracchino, lo spegni, togli l'alimentazione, però non devi poi riaccenderlo, perché allora i condensatori, hai visto, per un istante viene un po' una lucina, poi si spegne il tutto. Cioè, bisogna lasciare i condensatori carichi quando lo spegni. Spegni il baracchino, lo stacchi, però non devi riaccendere la manopola, no. Se no si scaricano a zero proprio. Eia, mamma mia, questo alimentatore mi sta facendo venire da... voglio spaccarlo, questo switching. Questa ventola è sporca, no? Facendo... ogni tanto parte di botto, comincia a fare rumore. Mia, la senti? Questo buon macino, ma... scusa, ma perché non lo apri? Te ne vai fuori nel poggiolo, nella finestra, lo soffi bene, lo pulisci, le metti dove c'è il motorino della ventola, un goccettino di olio, lo spezzi appena appena di CRC, pulisci i mandroni. No, guarda, l'avrei già fatto, solo che ho finito l'aria spray, mi veniva molto bene per levare quel nero che si forma. Saranno anche i carboncini dalla ventola, non lo so come funziona. Mi adesso si è zittito. Sì, appena ho l'aria spray, prima lo pulisco e poi gli metto un po' di antiossidante o comunque sull'asse gli metto un po' di... tipo il WD-40, che è molto penetrante. Eia. Poi non so se ne abbia una o due di ventole questo, perché una è per l'esterno, ma mi pare che dentro ne abbia un'altra, sopra la circuitazione. Comunque lo vedrò, dai. Tanto ormai la garanzia è scaduta da anni. Lo apro, lo scarico bene prima, no? E pulisco le ventole, dai. Poi se sono a cambiare gliele cambio, non c'è né problema. Ok, Natalino, ci sei all'ascolto? Natalino non c'era manco ieri. Sì, ne avrà le scatole piene nel baracchino. Purtroppo te l'ho detto, con quei varie rotture di palle e non sente le stazioni e c'è quel corrente forte e se alza disturba, ma è troppo attaccata all'antenna TV. E poi quello del computer, magari lo sente nelle casse, ma sentirlo nelle casse non è che A me ha detto che non gli si muoveva il mouse, non so, non gli si muoveva la freccettina sullo schermo, perché se ha il mouse wifi, caspita, ma il wifi sono 2400 MHz, cioè mi pare strano che addirittura il baracchino arrivi a disturbare il wifi, il mouse, ma una maledizione sono i vicini, sono una maledizione per i CB, tutti ci siamo passati, anche doppio room, lì addirittura c'era stata una campagna mediatica diffamatoria e c'era tanto da fargli causa a quello scemo che poi si era impiccato. No, io non ho mai avuto problemi, forse perché non ho niente da poter disturbare, capito? Sono talmente alto che non ho antenne TV vicino a me, cosa avete? Ci abbiamo una centralizzata dall'83, fatta da Pavotto, non ho mai avuto problemi. Deve essere che ti temono a te e non ti ricordo niente. E poi lasci pure, perché io non è che sono, mi rimando a fare quel paese e continuo a fare quello che devo fare, ma facciamo. Appunto. Dice, lascia perdere scorbutico, poi ci risponde male, allora lasciamo stare. Sì, a Gianni l'avevano scocciato, questo andava a dire a tutto il vicinato che lui disturbava tutto, lo illuminava quando tornava con la macchina, gli lasciava biglietti, faceva volantinaggio in tutto il rione, quello. Poi aveva messo l'articolo sulla Nova dicendo che lui era il disturbatore di tutto il rione, capito? Sì, avrei detto all'avvocato, l'avrei sguinzagliato all'avvocato, mi sarei pure fatto pagare, capito? Infatti, non bisogna disturbare, però se uno è a posto, c'è la coscienza pulita, non vedo perché debba fare quello che dicono gli altri. Non è regola, non gioco un pesce. Ci dite imbecille, mi deve proibire di fare un mio UB, di avere un UB. No, assolutamente. Avanti Antonio. Ah, io già non disturbo per niente più, quindi sono a posto adesso. Ma prima mi aprono le balle, allora l'unica cosa da fare è agire sulla centralina, metterla in corto, stai tranquillo, già la cambiamo subito. Antonè, ti ricordi che era risultato che era la centralina messa male? Cioè dicevano che eri tu che disturbavi ed era la centralina delle antenne, sì? E infatti già l'avevo messa in corto con la centralina, l'ho abbassata di notte, è salito su imbecille, ha preso con il cacciapite, ha spaccato tutti e due i regolatori in plastica e la centralina non si vedeva più niente, allora era cambiata in normale. Perché? Ma l'aveva detto anche Mr. X a me, il mio ex amico, già lo sai chi è Antonè, aveva detto, voi ho sentito l'amministratore di quel palazzo, dice, questo Pomponio mi ha detto disturba tutti, capito? Se non che era la centralina, come vedi, ci è rimasto di cacca l'amministratore, o chi per lui, insomma. Come vedi, la colpa è sempre il baracchino, invece poi si sono messe male molte cose. Bene, sono contento per te. Ma con quell'idea di turbo, figurati, neanche con 100 watt. E a dire che io usavo il BV 2001 agli anni che furono, adesso ricorda Claudio, ogni giorno 600 watt sotto al culo, ma con la striscia, dopodiché la centralina, quel maledetto vecchio analogico, insomma, è andata proprio in fumo, siamo a più di 15 anni, capito? Cioè, se uno non ha né lineari né amplificati, c'è un apparecchio omologato 4 watt, lì si ascolti, io sono in regola, andate in pace, oppure fate, già lo sapete, no? Direte l'intervento, controlla la mia stazione e la vostra. Perché molti hanno antenne vecchie, centraline con l'acqua dentro, che le ho viste io, con l'acqua dentro, sto pieno d'acqua. Pare una piscina di un acquario di pesci. Purtroppo. anche questo di fronte una volta diceva che a quell'ora vedeva male ed era l'ora che modulavo. Praticamente il tecnico, no, in camice bianco, no, con la targhetta tipo NASA, aveva fatto un casino piazzandola. Ho detto, ma lo vede che Montevolo è lì e questa l'ha piazzata dall'altra parte. Diciamo, poi gliel'ha risolto, aveva fatto un pasticcio il tecnico, capito? Tanto gli ha chiesto ancora altri soldi, quando il casino era del tecnico, per carità. Noi quando eravamo a piazzare antenne con Pippo non eravamo così. Adesso arrivano col camice bianco, tipo NASA, con la targhetta, ma vai. Poi ti chiedono cifre esorbitanti, 300 euro per un impianto d'antenna, che sono 600.000 lire, ricordiamo. Con Pippo, a parte il materiale, a parte 50.000 lire tra antenne all'epoca, chiedevamo 50.000 lire di compenso per l'installazione. Cioè, a parte il materiale, 50.000 lire. Adesso ti sparano cifre esorbitanti, ma chi siete? La manopola è piena, è venuta dai 120 adesso. I prezzi sono 25 quella della OHF, altri 25 euro quella della V, più c'è il miscelatore, 15 euro, il cavo, quindi 250 euro se ne esce giusto. Aspetta Antonio, dimmi una cosa, solo il materiale, antenna V, antenna U, miscelatore, fai una ventina di metri di cavo, una cosa media, quanto viene solo il materiale, hai detto? Solo il materiale, primo, secondo, sono 25 euro ciascuna, poi c'è il cavo, mi pare che il cavo è a 70 centesimi al metro, e miscelatore 15 euro. Ma tu per esempio quando vai a piazzare antenne TV quanto ti prendi di compenso a parte il materiale? 50 euro prendo. Vedi? Ma quelli chiedono 300 euro tutto il materiale, quindi si pigliano almeno 150 euro di compenso, che sono 300.000 lire. È roba da matti. Guarda, mio zio le antenne le metteva gratis per i condomini. C'era il signor Secchi una volta che abitava attaccato a mio zio. Dice, signor Pisti, dice, vedo male la TV, quanto vuole per cambiare l'antenna? Mio zio non si pigliava nulla, glielo faceva come favore personale. Dice, guarda, antenna primo, secondo, il cavo e il miscelatore. Dice, ci vuole tot per il materiale, basta. Glielo faceva come favore personale e quello era contentissimo, capito? Vabbè, quello però era un vicino, un amico, dai, lo conoscevamo da 50 anni, quindi non gli pigliava nulla. E mio zio, purtroppo, devo dire, mio zio sapeva fare un po' di tutto, sapeva fare il muratore, sapeva fare l'idraulico, sapeva fare l'antennista, sapeva fare tante cose, però non aveva gana. Il vino era il suo hobby, capito? Si è rovinato così, se lui non avesse avuto questa cosa del bere avrebbe fatto un bel di roba. Sapeva fare un po' di tutto mio zio, pensa, avrebbe potuto fare come quelli che fanno un po' di tutto, no? Piazza antenne, ti cambia un rubinetto, ti cambia una tubatura, capito? Pensa che l'impianto, come si dice, tutte le tubature per lo scaldabagno in cucina ce l'ha fatte lui, con la mola ha aperto due tracce nel muro, ha messo le tubature, ha messo lo scaldabagno, tutto lui ha fatto. Quindi quando vuole le cose le sa fare, che non, ormai poi con questa gamba c'ha la coccite, non può più muovere una gamba praticamente, è come che fosse fissa a me, non può più nemmeno lavorare per quello, dai. Vai Claudio. Dove vai Antonio? Sono qua. Come? Profumo, Simona di quelli da mettere in casa, mi sta ammazzando, cazzo. Sembra il TDP, sembra, aspetta un attimo che lo tolgo all'ingresso, ce lo metto in salone, sono il bocchende, cazzo. Eia. Capito Claudio, che mio zio volendo ne sapeva fare, che poi non aveva voglia perché c'era quel vizio brutto, la beozia. Ah, beh, se lui avrebbe saputo fare, tant'è che magari vabbè, un'antenna TV te la so mettere anch'io, non è che sia a quei livelli. Certo, io non vado d'accordo con le altezze, quindi se il tetto, mamma mia, finché il terrazzo viene bene, dai, metti una scala, finì ci arrivo. Poi c'è Pomponio per mettere l'antenna CB, era salito sul gabbiotto che c'è al centro del palazzo, già avevo le mani in testa, mica cadi, tipo veniva a capogiro, puoi cadere giù, ero già disperato, no? Poi c'è Pomponio, si trovava bene sul gabbiotto, ha tirato sul palo, ha bloccato tutte le staffarene, insomma, lui ha fatto tutto il lavoro di issare l'antenna, diciamo, dai, quindi, bene, bene. Ma la verità, mi trovo bene con questa antenna, è leggera, certo non rende quanto la mantova, ma l'unica cosa che mi frega, te l'ho detto, è il cavo, perché io sono in basso, troppo cavo, ma sono obbligato a fare così, però a saperlo, la differenza di prezzo era minima, Claudio, non avrei preso il 213, se me l'avessero detto prima, avrei preso l'H1000, che è ancora migliore. H1000, io mi sembra che l'avevo letto, non mi ricordo, avevo letto qualcosa. E dopo me l'avevi detto. Sì, costava poco di più, una cosa, vabbè, moltiplicato per 50 si costava di più, ma si vedano, avrei avuto un signor cavo, certo un po' più rigido era, ma pazienza, facevo fare curve molto larghe e me ne sarei fregato. Ok, adesso vediamo se c'è qualcuno, se no, ma non credo che mamma ne abbia voglia di uscire, mia ormai. Casomai rimaniamo tutta domani, tanto domani dovrebbe essere lo stesso bel tempo, ci facciamo una capatina pratamona, portiamo un po' da mangiare a quei cani, però non voglio che li glielo dirà, perché lì quella magia dice sempre, no, glielo do io i cani, perché vuol fare la padrona dei cani, capito? Come fossero suoi, invece io da lontano li chiamo, miele, come fai già, loro hanno un udito sopraffino, mi sentono e vengono da lontano. E poi voglio far vedere a mamma il quinto pettine, glielo volevo far vedere, tu guarda come hanno ridotto il quinto pettine. Perché ce ne saranno 10, poi hanno fatto questi stazzi per le pecore, una cosa scandalosa, non ho capito perché tutto questo spreco di spazio, il sindaco Rissoccio doveva essere proprio fumato, capito, drogato per fare una cosa del genere. Sindaco Rissoccio è mezzo mancante, su 5. Vabbè. Madonna. Sì, infatti, boh, io una porcheria del genere non l'avrei mai fatta. E hanno fatto la stessa cosa al quarto pettine. Hanno chiuso tutta la rotatoria che va al mare. Hanno chiuso proprio la rotatoria che va al mare, non so perché. Danneggiando poi gli eventuali bar che sono lì in spiaggia. Perché parcheggi, non lo so, stanno rovinando tutto, come a Platamona hanno rovinato tutto facendo quella, te l'ho detto, no? Tu vai dove c'era l'Ouro do Brasil, quella viuzza che costeggia, poi arrivi a quella specie di ristorante o quello che è, dove c'è quel gomito, lì dove si parcheggiano le macchine, tutto piastrelle per passeggiare, e come avevo già detto, la gente in estate va per trovare parcheggio lì, non va a passeggiare a piedi, sono dei coglioni, scusa il termine, ma sono dei coglioni questi qua all'urbanistica. Non so che comandano loro, fanno quello che le piace, non è che nessuno dice niente. Però quello che mi stupisce è che nessuno, almeno credo, perché io il giornale non è che lo leggo tutti i giorni, nessuno ha fatto lettere di protesta alla Nuova per lo scempio che hanno fatto, cioè non ci sono più parcheggi, ce ne sono pochi. Che cos'è questo? Aspetta, ho sentito una cosa. Aspetta Claudio, un attimo. Claudio, cosa c'è a 100... 45 350, cosa c'è? Perché? Ho visto ola, qualcuno che faceva ola, o sto sbagliando io? No, 145 350, c'è Vittorio che sta facendo ola, ma c'è un ponte oppure è mia azienda? Sta parlando in francese, forse c'è un ponte francese. Prova un po'. No, c'è il ponte francese, non diretta qua. Aspetta che accendo. 350 diretta. Questo qua. Non diretta, non c'è nei punti. La diretta. Seia. Sì, allora è Vittorio in diretta con i francesi o chi per loro. Avventura, sì, con i francesi, magari con la Corsica mia. Che... Aspetta che abbasso. Che c'era un radioamatore in Corsica che poco tempo fa era entrato e allora tutti Walter, tutti erano andati a parlare con lui. Non so se sia ancora quello. Mi ricordo che era a Platamona quando è entrato questo radioamatore dalla Corsica, allora tutti a modulare lì, i soli, tirano Vittorio, Walter, capito? Erano contenti di aver sentito una persona da lì. Vittorio va vedendo, io parlo con gli spagnoli e con i francesi, con i sardi non parla più oramai. Eia. Perché non parla più lui con la 525, no? No, ha fatto lo sfratto. E l'aria di Sassari come è messa? Ne ha sempre soci, niente sai. No, tu ne sei uscito. Tu ormai sei un lupo solitario, ah? Ah, boh, insomma, cosa esiste la sezione? Non so, ma come fare domande strane, perché io sono per i fatti miei, no? Non ho bisogno di nessuno, grazie a Dio. E niente, non cerco nessuno soprattutto. Sono qua. Infatti mi quando voglio entrare, tanto l'altro giorno sono entrato a 525 io. Due chiacchiere con Maurizio sarà pronto. Se ci sono persone che posso entrare, salutare, eccetera, entro e saluto. Ma se no non mi interessa, ma a prescindere. Sono scelte che bisogna fare, o le fai o non le fai, io le ho fatte e va bene così, gli altri lo dicono, non lo fanno, e vuol dire che non sono coerenti. Ehi, ehi, chi è che sta battendo qua? Ah, quello di sotto. Bene. Aio, entrate però, Natalino, forza, forza, scendati. Natalino, mi sa che non sta, va bene, no? È da ieri che non entra. Aveva battuto al fianco, come era accaduto. Beh, lì bisognava vedere se era inclinato, se c'era un'inclinazione anche. L'eventuale osso, ma può essere che fanno male anche i fasci muscolari. Io lo stesso avevo preso una botta alla gamba e per mesi sentivo un po', mi faceva un po' male, ma erano i muscoli in quel caso, erano i muscoli che avevano preso come uno strappo, un colpo forte, capito? Pupponio, c'è ancora? Sì, sono con gli Aesio adesso. Dai, dici qualcosa. Ogni tanto bisogna fare girare gli apparecchi e le varie frequenze. Se no si rompono, cazzo, si rompono. Eia, mi devo prendere qualche adattatore dalla Cina. Mi serve, adesso te lo dico, è un adattatore un bell'onfio. Da PL maschio a SMA femmina, è un po' strano, diverso agli altri, PL maschio e SMA femmina, perché c'è un'antenna di macchina che purtroppo me l'hanno mandata con l'SMA maschio e quando devo misurare stazionarie, così per cronaca, non lo posso attaccare al Rosmet, oppure devo metterci una marea di adattatori, capito? devo fare una pila di adattatori per riuscire a... Poi mi serve da SMA femmina ABL femmina e tutta robetta che del fusaro non avrà mai, capito? Fusaro al massimo trovi da SEO239 a BNC maschio, basta, non è altri. Io ce l'ho maschio maschio, poi ce l'attacco BNC BL femmina, poi c'ho un T che fa BNC BNC, infatti ci ho cacciato l'antenna della VHF piccolina, infatti la posso tranquillamente usare il barattino questo qua, agganciargli l'antenna della V portatela e portamela la parte giù. Ehi, aspetta, chiedo a Claudio. Claudio, l'hai mai conosciuto il connettore mini UHF? Mini UHF, praticamente sembra un PL, ma è miniatura, è più piccolo. Mai visto, mai visto. Il TNC lo conosco perché l'avevo trattato col Black Jaguar, però quel mini UHF non l'ho mai visto nessun apparato. Sì, esiste, ce li ha Tonino, è famosissimo Tonino di quei connettori. Io ho comprato i connettori N, i connettori, quelli che mi hai detto tu, SMA, poi ho comprato i barilotti N, che non è facile trovare. C'ha tutto, questa volta c'ha tutto di connettori. Ma posso provare se ce l'ha. Da PL maschio a SMA femmina, e quelli sono particolari però, e non sono di uso comune, ma le che vado le prendo dalla Cina, dai, io vado con la lista, poi quelle che c'ha bene, ok. Poi per la telefonia mobile, tipo per il wifi, ho visto spinotti microscopici, adesso non mi ricordo nemmeno come si chiamano, spinotti piccoli per attaccare antenne wifi. Ho letto, guarda, anche per, ho visto un video l'altra volta dove praticamente alla fiera, tipo fiera dell'elettronica, avevano sequestrato del materiale a un rivenditore. Questo perché? Perché ti vendeva il famoso modem alfa, no? Modem alfa che è di 2 watt di potenza in wifi, figurati, sono un bel. E ti davano anche antenne esterne, tipo direttive o paraboliche, e ti dava il programma per craccare le reti wifi. Cioè tu ti metti questo modem, ti metti l'antenna esterna, la punti dove vuoi, ti punti una connessione, poi con questo programma che però, a quanto so io, è a riga di comando, cioè non è roba che so usare io, potevi riuscire ad hackerare la linea wifi, a entrare in quella linea wifi, capito? Che vabbè, per la legge non si può, perché è accesso abusivo a reti protette, e ne ho sequestrato tutto. Il programma non mi ricordo come si chiama, però lo conoscevo io di nome, solo che è a riga di comando, è roba proprio per hacker, capito Claudio? E avevo studiato tutto. C'era un sito che vendeva anche per scopi leciti, no? Vendeva il modem alfa più l'antenna che volevi tu. Poteva essere un'antenna da pannello, quelle quadrate, piatte, poteva essere una direttiva larga 1 metro. C'è uno che in wifi si è collegato a 70 km di distanza, lo sai, ha una connessione wifi, 70 km, fatti il conto. E comunque, se lo sai Claudio, molti radioamatori usano, comunicano anche in 2400 MHz con cose particolari, comunicano anche in 5800 MHz, proprio con questi modem e con queste direttive wifi. Ma ti apri lì, vai, ti apri. Ok, per me sei perfetto. Ascolta, il processore è inserito. C'era qualcosa che non mi trovate maletta basse. Sì, processore inserito, il micchina, quanto ce l'hai? Perfetto, lascialo così, come ce l'ho io, tra l'1 e il 2 il processore inserito. L'impedenza te l'avevo già messa io a 50, lasciala, è sotto in posizione in. Come lo senti Marco adesso? Sì, abbastanza bene, dai. Ciao Gianni, ben entrato. Ieri purtroppo sono andato via che ero al telefono e oggi però già sono qua, dai. Ciao Gianni, in compagnia di Claudio Pomponio anche ci dovrebbe essere. Vai Antonello per Gianni. Ciao Gianni, saluto che mi hai sentito. Cazzo, c'è bene. Adesso sì. Bene, stai uscendo, è già. Bene, non lo toccare. La posizione del 440 è tra l'1 e il 2 in mezzo, quindi lascialo così, il processore è inserito, l'impedenza ce l'hai già pronta, lascialo così che sei perfetto, eh. Arrivi molto molto bene, sì. Bella radio, bella amplificata. E soprattutto molto chiara rispetto a ieri che era tutta un po' distorta, messa male, capito? Va bene, avanti Antonio. Sì, positivo di chiave, va bene, a voglia. Ci mancherebbe. Vabbè, io sto usando voglia ISO, quindi siamo più o meno alla stessa cosa, va. Come mi conformo male sono io, non sono come mi conformo amplificato. Adesso in seguito me lo prendo. Un bel microfono amplificato me lo pianto qua. Devo chiedere la sospensione a Claudio che mi ha detto che me lo vendeva, quindi questa appena c'ho il dinero, me lo prendo e così sono a posto. E questo c'è un attacco telefonico, c'è. Non lo so, Antonello. Perché lì interviene sempre la LC, proprio ti limita la radio. Quelli d'altronde, Antonio, sono fatti per l'SSP, per FM. La M già esce abbastanza bene, però un volume tipo il mio, di una radio normale, omologata. Deia, poi chi lo sa, magari ci sono le impostazioni giuste, io non ho imparato a fare nulla lì. Però chi lo sa, magari qualcuno riesce a uscire anche meglio. Natalino dice che aveva un'impostazione speciale, riuscivo a una bomba, però non se la ricorda più, non se la ricorda più. E va bene, dai, riprendi Claudio. Ma io lì avrei messo direttamente il microfono suo, capito? Sarebbe uscito benissimo lo stesso. Oppure, non lo so, il microfono che prende la emettazione della radio, qualcosa del genere. Non stai uscendo benissimo, Antonio, ma usa bene a frutti, ma usalo come lo devi usare, quello lì, e lascialo stare col microfono normale, stai uscendo benissimo alla grande. E per fare due chiacchiere sul baracchino, cosa usa bene a frutti. Avanti Capri, quindi devi andare a Fentino, no? Non sei a Sassari. Antonello ha lo IESU FT857, veicolare quadribanda, fa tutto, HF50, VEU in tutti i modi di emissione. Sì, ma infatti, una cosa ne va, sai, roba c'è dentro gli armadi, ogni tanto mi... Due settimane sono stato togliendo baracchini e provando. Poi me ne hanno portato anche, capito, me ne hanno prestato. E per fare due chiacchiere va benissimo, però io sono abituato con questi, no? Per me metto lì il 40 e il 30, no? No, non fa, amici, il Galaxy Saturnetto qua davanti, sopra il DAC, è un bestione, bellissimo, esce benissimo, però non mi trovo, io sono abituato a questo, non c'entra a fare. Me l'ho promesso, adesso lo faccio riposare un po', uso i baracchini, ho provato un paio di settimane, però non mi trovo, Marco, non c'entra a fare, è più forte di me, non, questi sono più selettivi, meno QRM, non c'entra a fare. Sì, infatti, ma giustamente tu devi usare la radio con cui ti trovi meglio. Io per esempio col 3009 è il baracchino per eccellenza per me, e tu se ti trovi meglio con quelli usa quelli, ci mancherebbe. Sì, mi trovo meglio, sì, cosa devo fare? È così. Ecco, l'ascoltone che mi ha mandato il messaggio, adesso lo leggiamo. Avanti Capri, riprendi. E Pomponio impegnato, che c'è un baracchino che ha il prefinale difettoso e lo deve cambiare, prefinale. Man mano che fa il passaggio scende il segnale, scalda e scende il segnale, quindi è in perdita. Già lo trovo da internet, anzi sicuramente lo trovo più da internet che qui a Sassari. Beh, bene, succede sempre già il pullman o come si chiama la scuola guida, cosa era? Ricordamelo, era scuola guida per pullman, così è. Eia. Si sentono le campane di fondo, sentono bene. Eia. Dai, prendi tu Claudio che vorrei mettere il 3009 col display blu, perché fermo da un po' di tempo, non bel po', e oggi lo faccio girare, dai, datemi il tempo di prenderlo, di attaccarlo e tutto, dai, ripigliate voi. Via, va bene, lasciamo qua. Sì, sì, sì, sì. No, il pullman tuo l'ho visto spesso facendo la linea da Castelsardo Gianni, quest'estate. Oh, scusami, l'estate scorsa, quest'estate no. Sì, bravo, l'estate scorsa. No, il pullman è in buonissime condizioni, perlomeno. Quest'anno non l'ho visto viaggiare, ma l'anno scorso sì. È in buonissime condizioni, il nuovo pullman. Eh sì, lui ha fatto il passaggio di proprietà, però non ha fatto la trascrizione perché c'è 60 giorni di tempo per farla. Capito? Quindi è chiaro che sono risaliti a te. Sì, sì, ma dimmi. E poi si fidava anche a portare i ragazzi a scuola tutte le mattine alle 7:15, ho detto, lì nello scorrimento veloce, capito? Ci facevamo proprio dopo la galleria che c'è lì del come si chiama, dove c'è la Roccia d'Elefante. Dopo quella galleria, io entrando, lui uscendo, ci facevamo tutte le mattine. L'ho riconosciuto perché è un colore particolare, capito? Eccomi, eccomi, sono rientrato. Claudio, questo è il 3009 col display blu e come vedrai la modulazione è molto più aperta. Qua i picchi salgono molto rispetto all'altro. L'altro ha il trimmer originale, proprio omologato. Questo è il trimmer amarezza. Si è notata la differenza? Sì, sì, molto più squillante la modulazione, va bene. Va bene, va bene. Oh Gianni, ho fatto una domanda, ma scusa, questo praticamente pagavano gli studenti il biglietto direttamente a lui o come funziona una cosa del genere? O aveva qualche convenzione nelle scuole? C'era rientrato Pomponi o se è entrato qualcun altro? Natalino, ci sia l'ascolto. Valerio D'Alghero, chiunque ci sia l'ascolto, avanti. Eia Valerio, eia. Ok, buona serata, ben sentito comunque, eh. Eia, eia, ok. Aspetta, bella escursione, Santiago 5, portante muta, modulati 7, forse anche qualcosa di più, dai. Una bella escursione di bei picchi di modulazione, dai. Ciao, vabbè, sei 9:30, sei qua con picchi positivi, già va bene, no, la radio è squillante, perfetta, no? Puoi lasciare anche questa, non c'è problema. Avanti i capri. Gappa, gappa. Ok, no, no, stai arrivando bene Gianni, sei 9:20 abbondante qua, non c'è problema. Mi sembra che sia anche leggermente più forte del segnale che avevi prima, non mi ricordo perché da tanto che non ti sento, però arrivi benissimo. Non c'è problema, non ti preoccupare. Ok, avanti Marco. Sì, anche qua è buono. Io Carlo 2 me lo ricordavo 8, di solito 8 di segnale, anche 9 mi certe volte. Adesso è 9+5, almeno con i picchi è intorno a quel segnale lì, dai. Poi sai cosa, ho cambiato baracchino, non sono tutti uguali. Con l'altro era 9+10 modulati, qua mi pare sia 9+5 modulato. Non sono tutti allineati. E poi sono baracchini, non vale niente lo Smith, l'unico era il K. Era in come si dice, lo Smith era veramente bello, dai, potevi dare controlli un tantino più seri. Ok, riprendete un istante che sto pulendo qua la cornicetta dell'apparato, che mamma mia, le ditate sono tremende. si vedono bene, la cromatura poi risulta brutta. La sto pulendo con un po' di acqua e batuffolo di cotone, dai. Va bene, va bene. Ma lei rimani o ha detto che assentavi? Va bene, dai, siamo qua, non c'è problema, avanti, capito. Come io ce ne ho uno solo, avevo 140, 180, l'ho venduto. Ce l'avevo tutte e tre, tutte e quattro, mi sono tenuto al 4,30 al 4,40 già, capito? 4,40 è più performante, quando lo accendi la potenza rimane quella che è, capito? In tre conversioni, quindi è diverso. E mentre 140 lo accendi, deve scaldare, rimettersi in quota, è un po' diverso. Così il 4,30 è la stessa cosa come il 4,40, tu lo lasci a 20 watt, lo accendi ed è sempre a 20 watt, non devi toccare più niente già. Una volta che l'hai regolato così, lo lasci così, lo accendi, lo trovi sempre così. Mentre invece se 80 è il 140, devi aspettare che scaldi per rimettersi in carreggiata, no? Già te lo ricordi. 4,40 non è così, è già. 4,40 tu ce l'hai a 20 watt e lo accendi fra due giorni e lo trovi sempre a 20 watt, non devi regolare più niente, capito? Ah, se stai 7B e roba vicia, usa questo e tieniti questo e basta, che è un'altra guba, lascia aperta, non ha niente a che fare con 80 e con 140. Vanno bene anche quella e di modulazione eccetera, ma questo è per conversioni e completamente diversa, una macchina completamente diversa, Gianni, capito? Quindi troverai molto meglio sicuramente. Stavo dicendo, sì, me l'aveva detto Roberto che gli ha dato un 440, mi pare che l'aveva fatto mettere a posto, me l'aveva detto. Ok, vediamo un po', Marco si è finito di pulire, Marco. Sì, perché non mi piace vedere le cornici sporche con le ditate e anche le manopole. E con appena appena di acqua, un po' tuffo di cotone, già si pulisce in fretta, vedo, dai. E utile, a me è 3009, te l'ho detto, l'apparecchio è baracchino per eccellenza, dai, sempre baracchino però. Sì, gli altri moderni, quelli con quegli SMD, funzionano altrettanto bene, ma sai, menu, sottomenu, questo almeno tutto manopole, non devi andare su menu, sottomenu, qua è tutto a portata di mano. Ah sì, ti mando la foto. No, non 3009, va bene, te l'ho già detto, sono dei bei baracchini e funzionano bene, hanno sempre funzionato bene. Basta tenerli sempre in ottimo stato, capito? Non è quello il problema. Io te l'ho detto, c'ho l'anno 48, ti ho fatto sentire, ti ricordi, con le MP5, anni dentro l'armadio, ma anni veramente. L'ho preso, l'ho collegato, l'ho acceso, perfetto. E vanno bene, i baracchini si possono anche tenere un po' di tempo fermi, ma queste radio no, queste radio no. Queste radio ormai hanno fatto l'era sua. Quindi va bene così, capito? Vai Capri. Ehi, che l'ho sentito ieri a Giuseppe, adesso no, avanti Giuseppe. No, sei peggio di ieri, non so cosa hai fatto, ma sei a livello QRM. Ieri ti sentivo benissimo ieri sera, adesso ti sento malissimo. Basso, basso, basso. Va bene, non lo sento, eh. Ieri lo sentivo Santiago 7. Infatti ho detto, ma agganciato sì, ma ha detto no. Dopo lo provo, adesso non lo sento per niente. Cioè, casino. Vai Capri, riprendi, tanto non lo sente Giuseppe. Ma quello che ho fatto io, lascia perdere. Eccomi, ho mandato un messaggio a Claudio per fargli vedere, vabbè lo conosce già, ma questo è quello display blu, e gli ho mandato una foto. Ehi, pensa Claudio che io ero tentato di prenderne un terzo di 3009 normale, lo sai, per tenerli così in futuro. Poi ho detto, beh, non ne cediamo, dai, non ne cediamo. Già sono abbastanza longevi questi. Anzi, spero che qualche ditta li rifaccia, perché prima le ha fatti la CRT, poi l'ha fatti questa Ranger Communication Malaysia, e si spera che li rifaccia ancora in futuro, dai. Ok, se no sono troppo tecnologici questi ultimi usciti, tipo CDT 9009, 6009, Lincoln 2 è diverso da quello originale, il President Grant 2 è lo stesso, è tutto pieno di tasti che non ne capisci nemmeno, ho capito. Molto bene. No, no, è bello, bello. Così blu è bello, anch'io grazie, c'ho il così blu. Ti dirò, all'inizio preferivo quello col display rosso, come una volta la lucina gialla, no? Leggermente giallina, che poi dovrebbe essere bianca, ma sai, la lampadina, insomma, quello che è. Poi blu ti dirò che mi è piaciuto. Anzi, appena me l'hanno mandato quello blu, no? Doveva essere il Superstar 3009 della CRT. Invece mi hanno mandato questo Super Jopix SS 3009. Ho detto, ma non è quello che ho chiesto io. Questo i 10 kHz, per esempio, non ce li ha. E di qui le vecchia guardia che ha il canale 9, no? La levitina del canale 9, al posto dei 10 kHz. Poi ho detto, ma funziona bene, cosa me ne frega, me lo tengo. Fa più che bene, dai. Eia. Guarda, se ne avessero fatto addirittura uno con lucina un po' bianca o giallina, col display verde sarebbe stata una variante carina. Una variante carina, però c'ho quello col frequenzimetro, basta spegnere il frequenzimetro e ti rimane il display del canale verde. No, va bene, lascialo così che è più bello. Eia. Oppure fare varianti, Claudio, tipo il display giallo. Io ho visto apparecchi col display canali giallini e non era male. È una variazione sul tema, diciamo, dai. Eia. Ma io non entra nessuno, abbiamo deciso di non andare stasera a Prattamona, ci andiamo domani, perché sai, era in radio, volevo stare in radio, invece andiamo domani se ne abbiamo voglia, se no pazienza. No, c'è Giuseppe, ma non lo sento io, va bene, figurati, le va basso a te, lui che lo sente io, ieri lo sentivo benissimo, ma te l'ho messo l'antenna, boh, non lo so. Non arrivo neanche qua. Ma ieri è arrivato, cazzo, non lo so cosa ha fatto, cosa vuoi ti dica, non lo so. Qua non arriva più, io non lo sento. E non sentirlo io è un casino, perché nessuno lo può sentire a Sassari. Guarda, sento una voce, Radio 1, Radio 1 arriva, ma non è capibile. Sì, sì, è mezzo al QRM, non è che lo sento che sta parlando, ma non capisco quello che sta dicendo. A me prima, quando agganciava mi arrivava 9, 7 di segnale, 9 quando era agganciato. Ieri mi arrivava 7, oggi non lo sento per niente, non lo so. Vai, Caprile 2. Gianni? Ma doveva chiudere, forse ha chiuso. Vale, ti ha rilanciato Gianni Capri 2, però se parla sicuramente Giuseppe non ti sente Capri 2. Vale, l'hai sentito a Capri 2, ti ha rilanciato. Io a Giuseppe non lo sento, non lo sento. O meglio dire, lo sento basso, basso, basso. Beh, tutti in fase di pausa siete. Scusa, avevo abbassato leggermente il volume perché stavo leggendo un messaggio e mi sono dimenticato di ritirarlo su, capito? Non mi sto mettendo la maglietta, ci avevo freddo. Ok, non lo so Valè cosa abbia fatto Giuseppe, la verità, perché ieri ha chiamato, ieri sera, eravamo io e Marco e arrivava a Santiago 7, e infatti ho detto, ah, prova anche lineare per vedere se funziona tutto bene. E mi ha detto, dopo lo provo. Allora non arrivi Banuda, mi sa cosa ha combinato, cosa ne so qui. Va bene. Datemi 2 secondi, Marco, riprendi tu, datemi 2 minuti proprio che metto a mangiare il cane. Marco? Marco si è messo allontanato. Dammi un secondo, Valerio e Gianni, dai, 1 minuto che do a mangiare il cane. Mi avete chiamato? Oh! Claudio? Ah, ok, Valerio, a me mi ascolti? Ok. Allora mi controllo le stazionarie io, anche se questo non è molto affidabile, ma allora, anzi non è affidabile per niente. Oh, non ce n'è, dai. Hola, 123, 123. Ottimo, ottimo. Vabbè, non c'è più nessuno. Capri. Capri. Vabbè, ma non c'è più nessuno qua su canale 10. Ma Marco. Pare. Ma io non la giovana diventiamo Marco. Sta sempre toccando, non lo so cosa ha toccato. Eia. E poi gli ho chiesto la marca dell'antenna. Questa è una Ringo, gli ho detto la marca, sì, questa è una Ringo. Ho detto, ma che Ringo è, della Lemma o della Ecco? È una Ringo che ha la bobina alla base, cazzo, è un pochino, ti hai capito, no? E vabbè, l'età che c'hai quello, però c'è la mania di stare toccando, capito? Io sono andato un bel di volte, ma te l'ha posto tutto, dopo di nuovo punti a casa. Lì c'è qualcosa che non va. Qualcosa che non va, rischia pure di fare danno, secondo me, perché è impossibile che arrivi Santiago 3 con l'antenna nuova, Santiago 3, liscio, capito? Quando arrivava Santiago 7 liscio con la Gran Prima, e quando agganciava arrivava 8 e mezzo, quindi era perfetto, arrivava più che bene, più che bene. Non lo so, non è che gli ha fatto lavoro, cosa hanno fatto, che cavolo hanno usato, non lo so, non so niente. Ma la Ringo, se è della Lemma, lo sai com'è, no? Era meglio il quarto d'onda a quel livello. Comunque, chi gli ha piazzato l'antenna invece della Ringo, se, tanto è la Ringo della Lemma, te lo dico già, perché la Ringo dell'Eco non esiste più da anni. Io ti dico che era molto meglio prendere la Energy mezz'onda, come la mia, ma mezz'onda. Almeno era una mezz'onda vera e propria, funzionante bene. La Ringo costa 38 euro perché vale 38 euro, te capi? La Ringo della Lem, si chiama Ringo Lem, vale 38 euro, non vale niente, ma fate vobis, capito? Beh, diciamo che perlomeno con lineare arriva, perlomeno, Santiago 8, vabbè, questo smettere, diciamo ho dovuto interpretarlo perché è tutto sballato, cioè, ti spiego. Santiago 1 con questo smitter, al PMUD era Santiago 5, e quindi arriva 1, quindi è 5, liscio, però è radio 1, non è capibile, con lineare arriva 8, più o meno 8, dai, cioè sarebbe l'8 del PMUD, avevo fatto tutta una scala, no? Ho dovuto interpretarlo sto smitter, perché questi dal 3009 sono particolari, segnano molto meno di quello che devono segnare, capito? E vabbè, infatti se tocca tutto è inutile mettere tutto a posto quando poi sballa tutto. K, sì, ma infatti il discorso che avevamo fatto noi con Valerio a suo tempo era comprare l'antenna che c'hai tu uguale a quella, capito? Uguale, identica a quella, e montare quella. Lui ha voluto fare testa sua, io non lo sento. Non lo sento proprio zero. Santiago 3, se c'ho QRM non riesco a capire niente. E mi viene il nuovo di Alzheimer. Oh, QRM hai, qua è Santiago 3, cioè corrisponde al vero Santiago 3, tu quanto hai? Allora io ho poco più di 2, dai. Un pochino meno di 3, però se sale il QRM a 3 io non lo capisco più, perché proprio Santiago 3 lui arriva, in mezzo al QRM. Eia. Certo, questa sarebbe stata già tutta un'altra cosa, questa mia. Ha voluto spendere poco, però ripeto, la Ringo Lem costa 38 euro, ma vale 38 euro, cioè poco e nulla. Va bene, io perché l'ho tolta dopo un anno? Dopo un anno, l'ho sopportata per un anno, poi gli ho detto, pussa via, tolta, l'ho data a Pomponio come pezzi di cambio, cioè per così. Però non c'è paragone, pensa che con la Ringolem da Sandro non arrivavo, proprio non arrivavo con 4 watt, no, invece con questa arrivo, e come se arrivo? Va bene, comunque cazzo oggi non vedo un'anima, io Natalia, io scelta di, sembriamo due disperati, cercando di tenere in piedi il canale. Sì, vabbè, chi vuole entrare entra, ce la vedi, perché sono 15 che sta facendo le prove con Giuseppe, se no già nel capo 2 c'ha questo impegno, sono già le 6 e mezza e me l'ha detto che si tratteneva poco, ma ho detto io di entrare per provare il microfono, è entrato, va benissimo, tutto a posto, quindi non è un problema, piano piano. Gianni non lo so, se devo uscire stasera, se è in giro, se è ancora dormito, non lo so. Sei uscito, ha fatto bene, dai. Io potevo dire, beh, se non è voglia, ma mi piglio la macchina, mi metto l'antenna grande, il baracchino, me ne vado in giro a Platamona e avrei parlato lo stesso con Sassari, mi per dire. Infatti se domani c'è gente, quando usciamo mi porto anche il baracchino. Se non ce n'è pazienza. Diciamo che oggi per l'ascolto c'erano radiante un po' dappertutto, in questo pomeriggio, no? Ce n'erano 525, 6625, 433 500, poi Vittorio su 350, lì 145 350, insomma da ascoltare ce n'era, dai. Invece va bene, PMR non c'è nessuno. Sì, questi baracchini sono impagabili e soprattutto questi 3000 hanno i componenti classici, cosa eccezionale, perché ormai nessun baracchino lo fanno più con i componenti classici, lo sai, questo è diciamo una rarità, dai. E forse avrei fatto bene a prendere un altro, capito? Non lo so, per usi futuri, per pezzi di ricambio, capito? E mi sa, ti dirò, Claudio, che è un errore vendere quello col frequenzimetro, lo sai, perché anche quello è lo stesso baracchino, con componenti classici e non ne troverai mai più, quindi gira gira per svenderlo a 100 euro, non so quanto mi convenga. Ah, lasciatelo stare, ma cosa stai, intanto vabbè, di mani e di nano vai nulla, io baracchino non ho mai venduto, mi ho dato tutti quelli base a Gianni a Capri2, infatti lì c'è ancora il console 2, lui, che l'ho dato io, un sacco di radio. C'è anche un bel ricevitore della Trio che gli avevo dato. Io non mai facevo niente e non c'avevo spazio. Ma baracchini io non le vendo. Non le vendo perché poi mi servono e non ce li ho, capito? Decido di andare per dire a fare una gita fuori, mi voglio mettere il baracchino in macchina, il VHF in macchina, cioè sia il veicolare che il baracchino, tutte e due a base magnetica e viaggio tranquillo e sereno, capito? Voglio usare il baracchino per qualche giorno, c'ho il baracchino da usare anche a casa per qualche giorno, c'ho il DAC, c'ho qui il Galaxy, c'ho l'altro che ti ho fatto sentire, non me ne frega niente, perché venderli, cosa devi vedere? Poi quello col frequentimetro è molto più bello dell'altro, Sì, beh sì, frequentimetro, ma sai, se finché sei in mano laterale può servire, quando invece sei in AM non te ne vai nulla. Si può spegnere, c'è il tastino per spegnerlo, infatti certe volte lo spengo così e si vedono le cifre verdi solo del canale, capito? Sì, infatti alla fine quei soldi me li mangio, me li spendo in cagazze, tipo il Parrot lì. È piccolino, mi è un pacchetto di sigarette, piccolino. Sai, tra tanti gusti che ci siamo levati volevamo levarci anche quel gusto di me fare il Parrot, poi appena ci giriamo le balle non ne usiamo più. Lo regaliamo a qualcuno, per esempio lo regaleremo a qualcuno, dai. Ehi, ehi. Tutto bene, tutto ok. L'hai visto quel video della tua voce? Hai visto come arrivi di segnale? Sì, sì, l'ho visto. Che bella la modulazione. L'ho visto. E anche tu arrivi così, meno pensare che arrivi più basso. Ehi, no, la modulazione non la considerare, Non la considerare perché il microfono del telefono è brutto, fa una modulazione CCC brutta. Guarda, se io avessi... Se avessi una cosa che registra in stereo, no? Se avessi proprio una cosa che registra stereo, ti avrei fatto sentire di persona come arrivi tu. La modulazione è meravigliosa, meravigliosa. Ma col cellulare non rende, lascia perdere, solo per farti vedere il segnale, dai. Sì, io cos'ho di stereo? Purtroppo i registratori sono tutti mono registratori. Di stereo c'ho la telecamera, ma e come faccio a fartela sentire di persona? Ci vorrebbe il televisore, vabbè, comunque arrivi bene, dai, la modulazione è buona, ottima. No, ma con questo non posso lamentare, ma va bene anche con l'altro, con i i più 5, più 4, no, vanno bene tutte le varie mie, già te le ho fatte sentire. Non ho fatto prove mie, la settimana scorsa ti ricordo, ho provato 4 in radio, il Cobra con l'MB più 5, il 48 con l'MB più 5, l'altro Saturn con il più 4 e con il più 5, il DAC, no, vanno bene, poi la mia modulazione è quella, non c'entra da fare, però... e poi sono tutti baracchini che hanno più di 10 watt, quindi si possono tranquillamente usare, arrivare a tutte le parti, non è un problema. Vediamo se è rientrato Valerio. Valerio, sai cos'è? Allora, prima, appena sono entrato, stavo usando un baracchino 3900 omologato con 4 watt, 4 watt è la modulazione che usa la chat originale. Questo è un altro 3009, però ha 5 watt e ha il trimmer della modulazione aperto, quindi è più forte. Però da 4 a 5 watt dovrebbe essere minima la differenza, eh? Ehi, ehi, ehi. E l'MPP5, guarda, ce l'ho, ma non mi ricordo se la batteria c'è ancora. Non mi ricordo se c'è ancora dentro la batteria, perché l'avevo levata per fare una prova, se no l'avrei attaccato, dai, ma non c'è bisogno, se mi senti in radio va bene così, dai. Eia, beh, facciamo così allora, dai, datemi tempo di prenderlo e di mettere una batteria, ok? E vi faccio sentire com'è. Brecco. Avanti, Brecco. Sì, buonasera. Buonasera a questa. Ciao Valerio, Marco e Claudio. Vai Valerio, ciao Massimino. Cappa, cappa, va bene. Alghero, ci arrivo, sì. Alghero, ci arrivo. No, è sul dattino, andate sul dattino. Guarda a vedere se arriva adesso. Oh, Valerio. Io l'ho attaccato nessun lineare, questo sono i watt della radio, capito, tutto lì, riprendi qua. Alza appena appena, ancora un pelino il coso dell'eco, alza appena appena, te lo regolo io, che è troppo bello con appena appena, prova. Oh, guarda a vedere. Ah, ma perché lo abbassi, cazzo, boh, lascia il caducì, lascialo così, è favoloso, è vero Valerio? Vabbè, dai, non me ne ero accorto, là. Magari l'avevo abbassato troppo poco. Va bene, là, com'è il segnale da te così? Come quando attacchi quello grande, né più né meno. Cappa Roger, va bene, ho sentito la portante, chi è? Avanti. Buonasera, buonasera, buonasera. Ho attaccato l'MB più 5 sul 3009, che ha il trimmer aperto. Valerio, vedi un po' come va. Ho messo il mic a 7, 7, vedi se è troppo alto? Eia, eia, l'ho messo a 7 perché è inutile metterlo basso, a 5, tanto vale metterlo a 7, eia. Claudio, come da te, e anche a Massimiliano, dai. Vabbè, le prove le avevamo già fatte, ma non sai che rimbombi troppo, mi. No, quanto ce li hai tu? A 5, sempre a metà. Mettilo a 4 il tono. Eia, tono a 4, non dovrebbe cambiare tanto, eh. Se vuoi te lo metto a 3, guarda, adesso è a 4, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso è a 3, 1, 2, 3, 4, 5, vedi un po'. Rimane più forte quando tu abbassi tu, c'è più toni acuti, com'è da te Massimiliano? Ma per me a 5 non mi piaceva molto, anzi se li metti a 2 i toni secondo me è ancora più bella. Eia, aspetta, ecco qua, adesso sono a 2, dai, però dovrebbe farmela più cupa, più cupa. Vabbè che ho la voce un po' acuta, quindi dovrebbe correggere. Eia, Valerio, meglio va, 1, 2, 3, 4, 5, canale 10, modalità AM. Là ce l'ha 2 il tono, si è andato a 5. Eia, eia Valerio, vabbè lascio così, dai. Se potessi sentirmi di persona, se potessi sentirmi, è che i registratori non rendono giustizia, perché sono mono, ci vorrebbe un impianto serio di registrazione per potermi riascoltare, però non si può, dai. Va bene, lo lascio così, dai. Lasciala a 2. Poi la mia domanda è questa: ma perché non usi l'MB più 5 con questa radio invece di stare con questi microfoni normali? Hai problemi di spazio? Sì, un po', però è abitudine, Claudio, è abitudine. Certe volte preferisco il palmo. Tu preferisci quelli da tavolo, io quello da palmo. Pronto? Ti stai portando dietro qualche rumore, Marco? Qualcuno che sta parlando? Sono i radioamatori, adesso abbasso, aspetta. Ecco qua. Tutti i rumori. Sentite la S, non è che fa troppo casino. S, Sassari. Va bene, lascialo così. Va bene, mi fido di voi. Se le volete sentire a 10 un attimo di volume, adesso a 10. Valerio, vabbè, Giuseppe ha risolto oppure no? Mi ha coperto, ma non è quello che Giuseppe mi ha coperto. Valerio, com'è a 10? Meglio ancora o no? Ho troppo rimbombante. Ehi, già va bene a 7, dai, poi parlo abbastanza piano. Non parlo come Claudio che parla così. Io, guarda, io sono a 30 cm dall'MC60. Quasi quasi non mi sentono neanche nell'altra stanza. Sto parlando piano. Io parlo pianissimo, sono i microfoni che pompano i miei. Ah, no, perché caspita, sentendo il volume sembra che tu stia parlando più forte. Appoggiami. C'è questo di sotto e da stasera che sta battendo. Non so cosa stia facendo. Dopo guardo. Va bene. Ma Natalino niente? In ferie Natalino. Dove prendi Masci? Caparrogero, Marco lì, state parlando con due radio completamente diverse. Eia, come dicevamo stasera, a Claudio piacciono quelli là, io preferisco i baracchini, proprio, mi piacciono i baracchini, voi non dava. Così come a Claudio piacciono quelli da tavolo, io preferisco quelli da palmo, è questione di abitudine, dai. Comunque guarda che lo sto dando un 3009 se ti interessa. Vabbè, io però li voglio vergini. Per esempio, io poco tempo fa ero intenzionato a prendermi l'ennesimo 3009 normale, ne ho due, quello blu e quello con display rosso, no, per dei canali. E ne volevo prendere uno nuovo per tenerlo per usi futuri, come ricambio, sperando non debba mai servire, capito? Poi ho detto, beh, non esageriamo, dai, perché c'ho anche quello col display, quello col frequenzimetro, non voglio esagerare, dai. No, io sono un altro frequenzimetro, questo c'ha display blu, canali Smith, 1 watt, 30 watt. Quella è una bella bestiolina, quella è una bella bestiolina. A chi serve qualcosa che sia forte, no, sai cos'è, io preferisco tenerli sempre abbastanza normali per evitare TVA, evitare polemiche, vedi, una cosa è mettere un amplificato così, ma una cosa è avere un mostro che dà picchi di 30 watt, per esempio con l'Omega Force ho avuto problemi di vicinato, sicuramente era quello che entrava nelle casse dei televisori, capito, negli altoparlanti, ma questi sono, c'hanno anche, sai, il circuitino dentro per anti-TVA e vabbè, dai. Comunque dicevo a Claudio che non mi conviene vendermi quello col frequenzimetro a 100 euro a svenderlo, perché tanto poi me li mangio, me li spendo in cazzate e non mi rimane niente. Vabbè, io adesso sto usando il Galaxy, vedi? Eppure non sto gridando, normale come stavo parlando prima. Che differenza c'è, Massimiliano, di microfono? Questo è un MBP5 lo stesso. Vabbè, rimane leggermente più bassa la modulazione, bella sempre però, attenzione. Questa è una bella radio lo stesso. La ghita è un altro pianeta. Più bassa dell'MC60 stai dicendo, no, che differenza c'è tra me e Marco? Un abisso. macchina più forte è questa, vedi? Ma pure questo è baracchino con la MB più 5, sto parlando a 30 cm, 25 cm, stessa distanza dell'MC60. Non sto gridando niente, e infatti sono intorno ai 10 di portante, sì, 10 di portante e 15 modulati. Vale, come mi senti tu rispetto a Marco? Oltretutto ti voglio dire un'altra cosa, che quel Saturneco c'ha la stessa scheda del 3009. Bravo, bravissimo, infatti. Ci può essere la differenza che questo microfono è modificato, quello del malato Gigi, capito? È modificato e forse spinge anche un po' di più di quello. Però io ce l'ho a 7 lo stesso, come ce l'ha Marco, i toni ce l'ho a 0, capito? Che differenza c'è lì ad Alghero, Vale? Come dico io, quella voce è cazzuta. Ragazzi, io scusatemi, ma io vi lascio. Devo andare a prendere una cosettina, va? Se ci siete più tardi riprendo volentieri, se no buon fine settimana a tutti. Ciao Valerio, Claudio e Marco, che fosse in ascolto. Buona serata a tutti, ciao ciao. Ciao Massimi, dai, ci aggiorniamo, ok, se magari ce la fai che rientri, siamo qua. Secondo me ancora, sino alle 7:30, 8:15 sono qua io. Va bene. Avanti Marco per Massimiliano. Ehi, ciao Massimiliano, dai. Buon proseguimento di serata se non rientri dopo. Ehi, e beh Claudio, e come metto io? No, come metterlo a 10 e parlare piano? Io sono 25 cm dal mic, adesso a 10, vedi? Se parlo così è un conto rimbombante, però se parlo così piano, quasi sottovoce, dovrebbe andare bene, dai. Ehi, sì, quello è modificato, ma io non ho voluto modificare, sai, perché sono un purista, preferisco tenerlo originale, dai. Adesso a 10, K, e vedo che sullo smitter, vedo lo smitter che sale abbastanza. Teia. Allora Valerio, caro Valerio, ma non siamo riusciti a capire se Giuseppe ha un aringo della LEM o un aringo della ECO. Io ci scommetto che è della LEM, perché l'aringo della ECO antenne non c'è più da anni, non si trova più da anni. È peggiorato di radio. Cazzo, io non lo sento, mi viene l'Alzheimer. Valerio, purtroppo non lo sento Giuseppe, è sparito proprio di radio, non radio 1, il segnale è buono ma la radio è 1. Beh, io posso dire che sicuramente è una LEM, perché la Sirio, ti ho detto, l'Eco antenne non c'è da anni, a meno che non sia un ritrovato bellico, e poi vedendo che esce un po' male, secondo me è quella della LEM, te l'ho detto Valerio, costa 38 euro, ma vale 38 euro, cioè poco e nulla, dai, va bene. E sarebbe stato meglio mettere allora una mezz'onda Energy mezz'onda, avrebbe reso molto di più, o addirittura questa, la 5 ottavi 3 radiali, leggerissima, sarebbe stata veramente la cosa migliore. E vabbè dai, purtroppo. Vabbè, hanno deciso male, perché quell'antenna non serve a niente, è un'antenna stracco baratto, come diciamo a Sassari, capito? È un'antenna stracco baratto, non lo so se è così, non lo so, vabbè, comunque, Giuseppe, qua hai perso moltissimo, te lo sto dicendo. Giuseppe, non ho capito niente, cosa hai detto? Non so, solleva la voce, avvicinati al microfono, non ti capisco. Non so, cosa stai dicendo? Ma di cosa stai parlando? Di quella che hai comprato tu? Quell'antenna che hai comprato tu costa 38 euro, l'aringo costa 38 euro, cosa 120 euro? 38 euro costa l'aringo. Sono fregato. Di Dinas, attento, non i butti. Cazzo, vale, passa davanti a casa sua, se riesci a fare la spesa, fammi la foto e mandamela. Ma non può essere, un Ringo, nome Ringo, costa 38,500 euro, ok, va bene, fai 38, quasi 40 euro, non più di 40 euro, assolutamente, capito? se è un arringo, se poi non è un arringo, allora ci devi dire che antenna hai, devi dirlo a tuo nipote cosa ti ha comprato, perché io non lo so. Sì, già è quella. Ma non è che quella Super Lem, no? No, no, non ha radiale, ha detto, ogni culatta. José, fatti tornare il resto, ascolta Claudio, tu ci vai, no? O mandi a tuo nipote, lì ci facci tornare il resto, perché l'arringo costa 38 euro, anzi 39 euro, perché costa 38 euro e quasi 39 euro, capito? No comment. Ma io le ringo le ho sempre conosciute molto economiche. Molto economiche. Io ho avuto la Ringo Lem, si chiama Ringo Lem, Ringo Lem. L'ho tenuta un anno, poi l'ho tolta per disperazione. L'ho tolta e si l'ha giulampata. L'ho a tamponello, anzi. Vabbè. Può darsi che hai pagato, può darsi che hai pagato 120 euro compreso il lavoro, Giuseppe, compreso il lavoro, ma l'antenna costa 38 euro, capito? Ti avranno preso 120 euro montata l'antenna, eh? Ma non hai pagato l'antenna, hai pagato il lavoro 120 euro. Non lo so, Giuseppe, non lo so che antenna hai montato, comunque. Vale, quando passi sotto casa sua fammi la cortesia, fai una foto e mandamela, perché voglio capire se quella è un arringo o se è un altro tipo d'antenna senza radiali, non lo so, simile all'arringo, non lo so. Io l'arringo la conosco molto bene, l'avevo piazzata a Mauro giù agli punti e costa poco più di 35 euro. Ma Claudio, non era meglio che andavamo noi a piazzargliela gratis, gli mettevamo un'antenna degna di questo nome? Ah beh, ma lui ha voluto fare lui e quindi va bene così, non ce n'è problema. Però ti ripeto, per me c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, non lo so, ok, comunque. Si vedrà più avanti, cosa vi dica. Io non lo sento più come lo sentivo prima, assolutamente. Guarda, se non fosse un aringo, se non fosse un aringo, la Game Master non può essere, perché costa ben più di quella cifra. Costa 160 più euro. Ma ci sarebbe... No, quella è radiali. Non lo so, non so cosa pensare, dai. Comunque, se gliel'ha messa il nipote l'ha proprio spennato, l'ha spennato. Dinanzi attento, ma se l'ha spennato. Vabbè. Ui ui. Vabbè, aspettiamo le foto, dai. Aspettiamo le foto. Serata magra però, eh? Poca gente, sempre poca gente. L'ho rimesso a 7 il mic, l'ho rimesso a 7, boh. Non voglio stare troppo, già si sentono tutti i rumori, così attira anche i rumori della strada, mi. Me ne accorgo. Vai Valerio se ci sei ancora, dai. Eia, sì, ma per oggi lo lascio, dai. Visto che l'ho preso, lo lascio. Tanto la batteria è ricaricabile, quella da 9. Una volta che si scarica, non faccio altro che ricaricarla e torna nuova, dai. Molto bene. Anzi, è meglio usarla la roba, perché poi comincia a non funzionare bene, capito? Eia, torno a due, ma mi sarei voluto ascoltare. Claudio, non è che puoi... col telefonino puoi registrarmi, no? Come ho fatto io, vedere com'è. Perché no? Dimmi quando sei pronto. Vai, vai, proviamo, vai, prova. Eia, allora, siamo sul canale 10, oggi è sabato, siamo sul canale 10 in modalità M, siamo in compagnia di Claudio, di Valerio, d'Alghero e di Giuseppe, anche se non lo sentiamo. Ecco qua, microfono ZGM B+5 su Superstar 3009, vediamo se è uscita la registrazione. K mandata. Eia, ma video è solo audio? No, solo audio, c'è bisogno di fare il video. È lo stesso segnale, sì, sopra il più del 30, quindi quasi a toccare il dB del più o meno come me, dai, come lo Smith che mi hai mandato tu. Eia, purtroppo io la mia voce registrata l'ho già sentita, bruttissima, è una voce da stronzo proprio, la mia. Guarda, a vedere, magari non sei più stronzo. Mezzo stronzo, dai, adesso vado là a ascoltarla, dai, che qua il segnale non arriva, dai. Ehi, ehi, riprendi, vorrei, fai girare per Giuseppe, vediamo se riesco a sentirlo, con questo baracchino anch'io c'ho un po' più di quel rem rispetto al 440. E cioè, cosa vuoi dire? A me mi senti meglio di Marco con questo baracchino. Io sto andando col baracchino, è un po' simile a quello che hai tu. Bella, l'ho ascoltata, diciamo che non rende, era molto molto forte e sembrava anche metallica, Claudio, te l'ho detto, non rende, ci vorrebbe un registratore professionale stereo e bisogna ascoltarla di persona. Va bene. No, la voce è bellissima, è bella, non è metallica, è bella compatta, c'è i medio alti, belli acuti, i medio bassi, va bene Marco, no, il telefonino è così, capito? Magari adesso no perché devo fare una manovra un po' azzardata, ma magari, capito, ti faccio ascoltare in VHF, non so, da qualche parte ti trarlo in una frequenza, ci sentiamo per telefono, una frequenza così veloce ti faccio sentire bene, perché col microfono è diverso, col telefonino è una fesseria, non va bene. Vai, hai sentito cosa ti ha detto Giuseppe? Non ho capito cosa vuole dire. No, io non mi sono mai vantato, no. L'hanno sempre detto gli altri, è la mia posizione, Giuseppe, soprattutto per Alghero, penso di non avere avversari, anche in altre frequenze, no? Non ci sono problemi. E per il fatto della modulazione è sempre quella, io ho questa timbrica molto molto grossa, molto, capito? E quindi qualsiasi microfono io uso, non c'è niente da fare, no? Ne ho usato tantissimi, ho usato anche il più 3, il più 4, il più 5, tranne il più 2, tantissimi microfoni che io uso, che ce ne ho parecchi, e non hanno nessun problema, capito? E questo è un Galaxy Saturn Echo normalissimo che sta andando con 10 watt, eppure vedi bene che va così. No, Vale, c'è da dire una cosa, che Marco in queste condizioni, come sta trasmettendo adesso, arriva molto ma molto bene, molto bene. Devi considerare che lui non c'ha potenza, ma se attacca a linea retto arriva più forte di me, non ci sono problemi, così nelle condizioni in cui sono io adesso, se lui attacca a lineare arriva più forte di me, tranquillo che arriva più forte di me. No, più forte no, assolutamente. Tu c'hai una posizione che è una cosa strepitosa, e conta che le antenne sono proprio sul tetto, e quindi io anche attaccando il lineare casomai posso arrivare uguale, ma non credo nemmeno, sarò sempre più basso, anche col lineare. No, se io ho 10 watt così in questa situazione, secondo me arrivi più forte di me, o forse quanto a me, non lo so. Quanto ti arrivo io, Vale, così con 10 watt? Ti faccio subito il calcolo matematico. Quanto arrivo io così col Galaxy? Picchi di 9-10. Marco, quanto ti arriva così con 4 watt? E io ti dico che se tu attacchi lineare quello che c'hai da 80 watt, arrivi più forte di me. Vai tranquillo. No, posso passare a 9-5, da 8-9-5, ma non di più, Claudio. Sarà, comunque, avevamo già fatto questa prova, mi sembra. Vabbè, questa c'ha 10 watt di portante e una ventina modulati, 18-20 modulati. Mi sembra che col baracchino normale da 4 watt mi superi con lineare attaccato, evidentemente sale di più. Vabbè, Ok, caro Giuseppe, che si attarda la fottitura che hai pigliato con che si antenna, già la voglio vedere, vale, non ti dimenticare, domani se esci, che sei in giro, domani mattina, tanto sono a riposo, non mi disturbi, passa davanti a casa di Giuseppe, mi fai una foto e me la mandi, che voglio vedere, sono curioso di capire che antenna ha montato. Senza scenderti dalla macchina, so che non stai bene, quindi senza scendertene dalla macchina. Direttamente così dalla macchina mi fai una foto, poi ce la ingrandisco io, voglio vedere che antenna è, perché mi sembra molto ma molto impossibile che sia un'antenna Ringo da 120 euro. Allora non è una Ringo, assolutamente, perché la Ringo è constatato al 100%, io ne ho montato 3 o 4, una l'avevo montata a Mauro, una l'avevamo montata, non mi ricordo a chi qua sa, anche a Coso, a Franco, l'avevo montata inizialmente a Daniele, poi avevo messo la Mantova, le avevamo pagate tutte quel prezzo, Ringo, con quella bobina del cacchio sotto, senza radiali, quella è una Ringo, ok? Che c'è quel filo che si regolano le stazionarie, quella è una Ringo e costa poco più di 35 euro. Sto per attaccare? Aspetta, mi metto gli occhiali, allora mi faccio lo smitti del Galaxy, prova. Sempre aumentando, Semmo. Comente? Sempre aumentando, Semmo. Dascia di aumentà. Aumenta, tanto c'è una scorrata, aumenta. Scorrata è morta, ne ha curato le gomme della camionetta. Vero, ma della brittella. Allora, è la brittella, io sono col Galaxy, sto andando con 10 watt, Marco sta facendo una prova, a vedere quanto arriva l'alghero. Dai, mi sono venuto a casa a riparare una chiave di macchina, un tastino si è staccato, l'ho riparato, sono andato a porto. Scappalo, Darie, va bene. Ah, io, Marco, sai quanto attaccare il lineareto da 4 soldi? Ciao, Vittorio. Maledetto. Volpe. Ciao a tutti, dai. Io non scherzo, scherzoso. No, ti avevo riconosciuto. Ciao, Vittorio, buonasera, ben sentito. Io sto usando il baracchino e cambiano completamente le voci. Come va? Sto bene. Tutto bene, dai, in qualche modo, comunque si tira avanti, la situazione non è che sia molto bella, comunque dai, a te ancora. E fottidini, per peggio e peggio già va bene così, vediamo questa prova di Marco, dai, Condor. Ah, è vero che lui ce l'ha dentro l'armadio, linearetto, capito, non ce l'ha attaccato, quindi deve prenderlo, quelli di macchina sono, mi capito, deve prenderlo, attaccarlo all'alimentatore o vale, e poi deve metterlo sopra il baracchino, deve mettere il petto di straccio perché sennò si graffia il baracchino, segna il travaglio, ma lascialo in terra che... Roba di travaglio, buonasera. Mi pure qualcosa come c'è, cioè, eh? Lo vuoi parlare adesso o lo vuoi parlare, eh? Vai, io ti busso la porta, eh? Mi lumi? E tu pure hai cosa da dire, attenzione, ho fucilato al campanello. Eccolo qua, un attimino, non fischiano, spero di no, aspetta. Un attimino. Valerio, Claudio e Giuseppe, guardate il segnale, così attaccato. 1, 2, 3, 4, 5. Ho abbassato il mic però, non sia che fischi, vedi un po' come va. Da me sei sopra il dB del 30, oltre il 30 sei sopra il dB, quindi saranno se no 10 punti in più. Sul 40, da 30 a 40 si è andato, dai, per capirci. Vediamo da Valerio quanto sei. Eia, ho abbassato il mic perché ho paura che possa saturare. Qua lo rimetto a 7. Hola, 1, 2, 3. Prova. 1, 2, 3, prova. Però ho paura che saturi, quindi lo rimetto a 4. Ok. Ecco qua. Dovrebbero essere una settantina, 70, 70 più o meno. Posso prendere il microfono, salutarvi che chiudo? Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao Vittù, ciao Marco, Claudio, Valerio, Natalino, ciao a tutti. Ciao Lu, ciao, ci sentiamo. Ciao Luca, ben sentito. Ha avuto poi un casino per un telefono, porca paletta, ci ho rimesso. adesso io, una signora di Usi, la figlia, dice il telefono, l'hanno portata alla Vodafone, tutto manomesso. Poi io sono quel tipo che, sai come sono fatto io, le cose precise, pulite, ma comunque mi ha batterato il cervello questa signora, una signora di 70 anni, mi dice, ma il telefono l'ho pagato 200 euro, qua e là, cioè me l'hanno dato per un danno, adesso ne ha un altro, che io cioè, non ne rispondo, alla fine non ho fatto io il danno, ma comunque sempre di tasca mia lo sto riparando, là, ciao. Ciao Lu, a fotti bene, bella salute. Ciao Luca, dai, ci sentiamo forse in questi giorni in quel locale dove ci vediamo qualche volta, ciao. E a me tu, già mi tranquilli a me, ciao a tutti, ciao, ciao Cla, riprendi, ciao. Ciao Luca, insomma abbiamo furato 9,5, dai, è sufficiente, dai, va bene, adesso stacco tutto. Ma non hai possibilità di lasciarlo in stand-by questo linearetto, nel caso serva, lo usi invece di stare attacca e stacca, no? Lo sai che è lineare, non è nel mio credo, è una cosa superflua, non lo considero nemmeno, non mi ricordavo manco dov'era, l'ho trovato per caso, sì, guarda, a Bozza, dov'è? Eccolo qua, stand by. Lascialo stare così, stand by, sono 10 punti sali, da 30 a 40 qua, 38 dai, 40, va bene, va bene. Vedi, tra l'altro che arrivavi col mio segnale, so io ho picchi positivi a più 10, ma tu da 8 a 9,5 sono tanti, capito? Va bene, va bene, la prova l'abbiamo fatta, va bene, riprendi o vale? 5 watt, allora questo display blu ha 5 watt, quello col display canale rosso ha 4 watt, adesso sono liscio, però tra cavi e cavettini starò perdendo un po' di segnale, dai, conta Valerio che quello che mi frega sono i 50 metri di cavo, capito? Sempre quelli sono che mi fregano. Sai, però io penso che 1-2 dB li metta di dispersione. Certo, non è un Santiago, sai. Va bene, sono veramente contento. Dai, chi è entrato? Avanti. È entrato Vittorio. Ciao Marco. Sì, è entrato Vittorio a fare un saluto. Oh, come va? Aspetta che attacco. Ecco, voglio vedere come va Marco. Dimmi tutto. Guarda con l'eco a vedere come va questo baracco, mamma mia. È leggero leggero, non copre la parola, diciamo che è piacevole così, dai. Meglio di quegli echi colt che fanno quella specie di suono indistinto. Sì, su Claudio con l'eco, è la fine del mondo. Ah, vale, il Galaxy Saturnetto con l'MB più 5 e l'eco, mi ha cagato. E invece è bellissimo quella. Davvero, Vittorio? Capasa. Allora, Vittorio Volpe mi conferma che è bella, mamma mia. Non mi sento, non mi ho messo le cuffie a sentire, Vittorio. Sì. Già era un giorno che esci nel buco, io ho rotto le scatole, va bene così con il microfono su, già va bene, dai. Natalino, caro, sei uscito oggi? Ehi, infatti non eri entrato, ho detto magari si è fatto un giretto, noi volevo andare a Platamona, invece andiamo domani. Andiamo domani, K. Vabbè, fate girare, dai. Natalia, Massa Denivaria. Ciao Vittu, buonasera. E buonasera anche a te. Ciao Vittorio Volpe, Marco ti saluta. K, ricambio, dai, non c'è problema. No, me la sto prendendo con Natalino che è rimasto un po' assenteista in questi ultimi tempi. Io ci sono sempre. Ma una telefonatina, che cosa? Lo so, Vittu, impegnato, capito? Gli impegni sono di tutti abbiamo impegni, però qualche volta una chiamatina per uno sfogo così, sai? Non c'è problema, basta andare in una palestra di pugilato e sta qua a Remo e ti sfughi. Vabbè, ma io già mi posso sfogare anche in altri muri come te. No, no, quelli fanno male. Non fanno male, fanno bene. Ah, che tu pistolero sei. Oh Vito. Beh, io sono un pistolero prima di Natalino, questo bisogna ammetterlo. Io mi ricordo già da quando ci vedevamo più spesso, lo sapevo che andavi sempre a sparare. E Natalino c'era questa passione, anche bello attrezzato. E beh, Natalì, a proposito, è Sant'Ampella. Natalì. Ah, ma non mi intendi, dai giù la stampella. Già è qua la stampella. Bastone, cioè, non stampella. Ehi, bastone, là, come dicevamo noi, non posso camminare manco con la stampella. Come va la schiena? Meglio la gamba? Ehi, già va meglio. Meglio così, dai, già va bene, già va bene. Ok, che ora si è fatta, ragazzi? 7:30. Io altre 5-10 minuti e poi stacco perché devo portare il cane. Avanti Valerio, ma Giuseppe che fine ha fatto? Va bene, no, tra un po' io preparo, vado a portare il cane, così me lo tolgo la mezza ai piedi, poverino, che è lì sdraiato, vicino alla porta, vuoi uscire. Cazzo, già buio, ragazzi, 7:30, il prossimo mese cambia l'orario. E siamo fregati, alle 5 fa buio, bella rottura di scatto, ragazzi. Ah, Marco lì, mamma mia, come sto? Eia, vabbè, però, non lo so, certe volte preferisco la luce, certe volte buio, dipende se devo fare prove con antenne, se devo fare roba, dai. Eia, comunque è nata lì, anche mamma lo chiama il baccolo, proprio così, il baccolo, non so da che lingua derivi il termine baccolo. Sassarese, baccurino, lo chiamiamo, baccolo. Ah, ho capito, il baccolo. Vabbè, anche lei, anzi ti dirò, non ne sta più usando, preferisce camminare un po' tutta storta che c'era il bastone. Ce le dà più impedimento che altro, alla fine. Molto bene. Beh, gira, allora un po' di gente è entrata oggi, dai, che eravamo due disperati con Claudio. Era entrato Natalì, era entrato anche Gianni Capri 2. Ieri non c'eri, non l'hai sentito, è rientrato, dai, ha rimpiazzato l'antenna e sta uscendo abbastanza bene, dai, non so se l'hai sentito. Ieri l'hai sentito, eri all'ascolto. No, non c'ero. Eia. È rientrato, dai, è rientrato anche Antonello Diossi, che non entrava mai a causa lavoro. È entrato ieri, purtroppo, vabbè, mi sono assentato per una lunga telefonata e ho dovuto lasciare la ruota ieri. A proposito, Antonello, ci sei all'ascolto? Antonello Diossilandia, ci sei all'ascolto? No, dai, sarà in giro con la famiglia, giustamente. Riprendi Claudio Omane, la voce di Claudio l'avevo voluta io, la voce sia di Claudio che di Bulldozer, è una voce cazzuta e rende molto bene con le radio. È bella tutte me cazzuta. Sì, vabbè, io questa voce ce l'ho. E quindi qualsiasi tipo di microfono, anche di quelli tracco 40, che sono più 4 più 5 sono microfoni da prezzo, che però fanno una buona modulazione. Va bene, dai, io visto che ho il microfono in mano, inizio a salutare. Ciao Vito, un piacere averti ascoltato. Noi siamo qua, quando ti fa piacere entrare a salutarci, per noi è un onore, ok? Ciao Tatalì, ciao Valerio, ciao Giuseppe, ciao Marco, hai visto, si è lamentato e oggi siamo entrati un po' tutti. Ciao anche a Luca del Monte, se c'è. Un abbraccio a tutti, se ci siete, più tardi, ma come abbiamo fatto ieri, un'oretta anche in più, non fa male. Se ci sei, ti chiamo dopo. E se no, ritenetevi tutti salutati, anche quelli che sono in ascolto sul canale 10. A domani a tutti, ciao ciao, il cambio per... Buona caccia al cane, anche se non è di caccia. che, ma io direi che ne devo approfittare anch'io a salutare tutti quanti in generale, non faccio tutti i nomi perché siamo tantissimi, purtroppo mi devo assentare perché ho avuto un richiamo due minuti fa e quindi devo purtroppo allontanarmi dalla frequenza. Saluto Natalino, Marco, Giuseppe, Alghero in generale, eccetera, tutti quanti. Saluto ancora, io corri qui per me, dai, è un po' urgente, abbiate pazienza. Siamo tutti, mi farò sentire più spesso adesso che da un certo periodo un po' più di tempo. Ok, buon proseguimento ancora, tanti saluti a tutti, ciao. Ciao Vittorio, ciao Claudio, avanti Marco. Ciao Vittorio, ben sentito, entra più spesso, scusa per la parolaccia quando ho definito la voce di Claudio, ma è il termine più adatto per definire il tipo di voce di modulazione, dai, entra più spesso, dai. Claudio, se ci sia l'ascolta ancora, anche mamma lo dà la tua voce, non solo la modulazione, proprio la voce in sé, e infatti ti chiama sexy voice ogni volta che ti sente, ogni volta che entra al baracchino. Ok, il mic per Valerio, ci sei ancora? Saluta la mamma, da se chi si vuoi. voice, scritto in inglese. Bene, Valerio, ci sei ancora? Dai, riprendo io, sto uscendo Marco lì, se lasci acceso come abbiamo fatto ieri, facciamo altre due chiacchiere, dai. Ok, ciao a tutti, anche a Vittorio, ciao a tutti. Eia, ciao Claudio, se posso rimango, dai, era per guardare un telegiornale alle 8, che oggi sono digiuno da qualsiasi telegiornale, vabbè che per quello che dicono, tanto con quale sarà in radio, eia Valerio, adesso fa più buio, ma per il pipistrello è migliore, per rattapegnare è meglio il buio, no? È una cosa ideale. Eia, ciao Valerio, dai, ci sentiamo domani o quando capita, domani forse vado a Platamona, quindi magari non ci sentiremo, ma nel caso già sono qua. Ok, buona serata, buon tutto, anche a Giuseppe, un salutone, ci sentiamo alle prossime. Natalino, riprendi, finalmente soli. Aspetta che sto chiamando mia moglie al telefono perché ha trovato Mai ti vedano. Cosa hai trovato? Mai ti vedano. Ehi, mia moglie, è mai di me che ha acciappato. Perché deve portare il cane sta piangendo già, che vuole uscire. Eia, sto notando qua un'anomalia sull'orologino. Anziché le 19.37 sta segnando le 7.37. Si è cambiato da solo, adesso lo rimetto a posto, dai. Va bene, telefona pure, dai. Intanto io rimetto a posto questo orologio. Cosa Marco, che non ho sentito che era al telefono? Ho detto telefona pure che io metto a posto questo orologio. Ma cappa, no, io ti ho già telefonato, perché il cane mi ha sentito. All'interno all'ingresso del lineare, non sembra che ce ne siano, niente di rilevante, dai. Capito Natali, io arrivo Santiago 8, Alghero liscio con 5 watt, col lineareto 9 più 5, giusto 2 Santiago aumenta, è proprio come prevedevo io, 9 più 5. Lo so, io non ho voglia se non aprire. Ho avviato l'antenna che dice che non è fatta uguale quella fatta con la canna da pesca, capito? Ma io non credo che sia questione di antenna ma di apparato. Magari quell'apparato lì, sai, esce forte di radio ma può dare spuri e dentro non ha il circuitino anti-TVI, questo ce l'ha per quanto può servire. Poi l'antenna è bassa. Ricorda, io sul terrazzo ci sono tutte le antenne TV sul parapetto, che orientate verso Monte Oro, diciamo, però sono sul parapetto verso Alghero, no? In poche parole, la mia antenna è dietro le antenne TV e più in alto, come deve essere proprio di norma e regola. Tu ce l'hai un po' più attaccata alle antenne TV, ce l'hai più attaccata all'antenna, no? Che sono i radiali, insomma. Se non avessi avuto i radiali magari non avrei disturbato nessuno. Non lo so, Natali, è un discorso più ampio quello. Ci sono un'infinità di fattori che possono influire, dai. Un'infinità. E chi lo sa? Dipende dagli apparecchi che ricevono e giustamente anche il decoder TV può fare la differenza. Ci sono certi decoder che prendono più mondezza, sono larga banda, no? Troppi fattori da considerare. Io sempre sono dell'idea che una volta che tu sei omologato, tranquillo, con 4 watt, chi c'è disturbi se li tiene, capito? Lo so, ma non è giusto. E poi l'antenna è bassa, ne avrei sceso la manta da 5 da campagna, ne avrei sceso e mi avrei preso i pali che sono 12 metri. Li avrei messa un po' più bassa di 12 metri e via. Seia, naturalmente tirantando, perché ci vogliono i tiranti col palo, sennò come arriva vento forte, mamma mia, è un casino. Purtroppo più basso sei, nemmeno si arriva. Quella è è un po' sempre la... Poi, per esempio, un conto è essere in basso ma libero, in zona con pochi palazzi intorno, no? Soprattutto palazzi più alti. Per esempio dice che Paoletto, no? E lì in basso, no? Però era più libero. E lì ce lo sentivano dappertutto. Arrivava dappertutto. Invece, è una cosa essere lì, sai, con i palazzi intorno. E vabbè, purtroppo anch'io avrei voluto la posizione di Claudio. Arrivare bene come lui, però non lo posso permettere, sono qua e me la tengo, dai. Io non so cosa vuoi fare, pure io in campagna sto fortissimo, mi sentono tutti. Eia. Sarebbe bello avere una villetta da soli, a vincere sopra la lotto, pigliarsi una villetta a scala di ciocca e metterci, cazzo, una bella antenna, bella, tirante, palo alto, e pompare, e allora sì che a scala di ciocca proprio, dove prima delle discendere le curve, ci sono tutte quelle villette, lì è molto bello. Sì, io lo so. Quando penso che c'era gente che aveva vinto anni fa 70 milioni di euro, 140 miliardi, io dico che non sai più dove spendere i soldi. Sì, infatti. Perché uno o diventa matto, come leggi la vincita, o diventi matto, ti viene un infarto e muori, e se lo mangiano i parenti poi. E poi comincia, ti vengono le paranoie, hai paura di essere sequestrato, se si sperge la voce, un bel casino, mi. ma se vinci questo di già te lo danno il portavarmi per difesa personale. Beh sì, anche quello. Però bisogna anche investire, perché se vinci e non investi nulla, te le tassano e se ne va tutto in tasse. Bisogna investire in qualcosa. O la banca ti dà un buon interesse, tipo del 4%, oppure investire in qualcosa, non lo so. Buoni del... non lo so come si investe, sai, ci sono i buoni di Stato, come si chiamano, i BOT, non me ne intendo. E comunque investire è anche un rischio, comunque, Nathalie, che l'investimento può andare male e perdi anche soldi. Sono rientrato. Sì, già gli hai fatta fare poco in fretta la pipì, cosa gli hai spremuto la vescica? No, io la fa subito, se piace sia questo o c'è presto. Ma poi me ne accorgo io quando non ne fa più, capito? Ho fatto la popò qua nel giardino, tu ci sono un mal di schiena allucinante. Cosa ha fatto? Una popò più grande di lui? Sì, oh, normalissimo poverino. Sembra artistico di quanto ne fa poco. Ho detto a Natalino, sarebbe bello vincere sopra nella lotto. Pigliarsi una villetta lì a Scala di Ciocca, lì prima di scendere nei curvoni, e lì ci puoi mettere tutto quello che vuoi. 10 metri in palo, se non di più, tirantare, e lì sei bello in alto. Credo che sia all'altezza delle tue antenne, vero? Le tue antenne come sono? All'altezza di tipo la scuola di Scala di Ciocca lì? Non la compreso, no? Ma sto uscendo, sì. Eia, no, si sarà affossato un attimo. Eia, sì, probabile pure che le antenne di Claudio siano all'altezza di Scala di Ciocca, Lì una volta, quando c'era la stagione buona per i DXMI, nel 2010-2011, ero andato a Scala di Ciocca con la barra mobile e l'antenna della macchina, ma devi vedere quanto arrivavano forti segnali. Mi è arrivato uno dalla Valle d'Aosta, mi arrivava 9,20, 9,20, fortissimo. Bella zona è quella, porca miseria, beato chi ci abita. No, stavo pulendo il muso al cane che stava bevendo, sono fatte le gocce. Ehi, dicevo, le tue antenne sono all'altezza della Scala di Ciocca, lì dove c'è la scuola? Oh, io non si può Scala di Ciocca. Ma la superi addirittura. Nathalie, figurati il culo che c'ha questo. Scala di Ciocca, boh. Vedo l'alterrato, vedo la galleria del Mastri, così si chiama. Ah, boh. Ottima posizione. È una posizione veramente privilegiata quella. Poi se attacchi VAT non ne parliamo, eh? Una volta tu non avevi il TL922. Eh sì, ma la corrente costava di me, quello fatto pure. Vabbè, c'ho l'FL2100, non è che cambia molto. Capito? Della IAESO, quello là era della Cable, questo della IAESO, tutte due HF, però vanno bene anche in 10 metri. In 11, dai, va bene anche in 11, no, non spreco più energia, fare che cosa, far vedere che sono che cosa. Va bene così Marco, come vedi, sono a pari vostra, baracchino per me anche più che sufficiente. Prima erano altri tempi, vedi? Prima erano altri tempi, tu immaginati che vuol dire 9,22, a Michele Polverone è partito da Predagneta, l'ho accompagnato fino al piazzale di Oristano della sua azienda, fino a dentro il piazzale. Minchia! No. Anche con Cosio, con una cavallina di Villa Ciro, parlavamo la notte, io, Vittorio, Walter. No, vabbè, questa posizione è una buona posizione, però ci sono sempre i pro e i contro, verso il mare basta anche la latte dolce, arrivano molto miti, ricevo lo stesso, arrivo lo stesso. Io sono molto aperto in tutte le posizioni, però verso il mare ho un po' di difficoltà perché c'è la collinetta lì di Sennori, quella zona alta di Sennori, che mi dà un po' fastidio, capite? Ma l'importante è sentirsi, ma cosa della frutti? Cosa della frutti? Con Vittorio mi ricordo una volta avevamo fatto una prova in V, lui passava passeggiando d'estate col portatilino a lungomare Anglona, lì ad Albero, lì praticamente ci sono i cannoni, non so se si chiama lungomare Anglona, mi ricordo così, col portatilino, e arrivavo a fondo scala, e lui mi arrivava a 5-9. Con chi hai detto? Hai detto? Con Vittorio Giorgio. Bene, ma comunque bella serata, dai, per modulare, abbiamo fatto delle prove. Sì, comunque sono d'accordo anch'io che dovrei usarlo di più questo MB+5. Ma sai perché non lo uso? Perché accoppiato al 3009 omologato, che ha il trimmer chiuso, non rende tanto. Non rende un granché, invece accoppiato a questo che ha il trimmer aperto, pompa molto di più e... Ma infatti io cosa ti ho detto? Usalo con questo, baracchino qua che va molto bene, capito? Eia, ma lo sai, giorni feriali, no? Mentre ci siamo contro lo bussano. Chi è? Esco radio. E mi beccano questo non omologato. Vabbè, non capita, perché deve essere una cosa proprio remota. Non capita, ma io ho sempre le paranoie. Bussano, non so chi è. Hai capito? Preferisco lasciare sempre l'omologato. Al limite sabato e domenica metto... Ma c'è 5 watt, non è niente di allucinante. 5 watt sono, dai. Manco ne avesse 30, 40. 5 watt. Poi ripeto, c'è sempre il circuitino all'ingresso, all'uscita del bocchettone PL, circuitino anti-TVA, insomma. Comunque... Adesso sai come sono le omologazioni degli apparati, Claudio? Cioè dietro non c'è scritto altro che CE, per esempio CE341, e qua sarebbe l'omologazione europea. Non è più che una volta, omologazione numero 8, oh, quelli sono, quella è storia antica. Qua c'è scritto CE, mi pare 0341, adesso te lo dico, aspetta un attimo. Allora, CE0341, basta, non c'è scritto altro, quella è l'omologazione europea. E beh, non si stacca il mic, aspetta. Se lo devi far andare dall'altra parte, era tu hai ballato MC2P5. Hanno fatto il sistema tutto, potevano fare separato, mezzo e mezzo, mezzo PTT, questa portante così grande. Come gli altri microfoni che ho, è mezzo lock, no, arrivato, va bene, sì, me l'avevi già detto che praticamente era così l'omologazione adesso, comunque non ti preoccupare, nell'elenco che ho dato io all'Esco Radio non c'è il tuo nome, quindi stai tranquillo. Eia, no vabbè, diciamo che ho sbagliato io, lo stavo spingendo al contrario, se no vedi, guarda, è pratico, per me è pratico, guardate che sia pulito, che non vada raschiato un po', è fluido, è molto fluido. Oh, quelli che io sono nuovi, io ho 2 MB+5 e 1 MB+4, sono tutti nuovi, sì, proprio gli ultimi, perché il primo, se ti ricordi, MP5+4 aveva i pomellini grigio con questo coso giallo, invece adesso quelli nuovi, per questi sono nuovi, sono grigi, il pomellino col tappo nero, e quindi ci sta anche meglio, da questo giallo non ci faceva un cacchio. È vero, prima aveva quel pomellino anche col bordino giù largo, con questo anellino giallo che non era un granché a vedersi. Questo invece è degli ultimi, è più elegante l'aspetto, dai. Poi prima non c'era la placca metallica, capito? Prima era disegnato sul nero con scritte gialle, mi pare di ricordare. Poi c'era la placca metallica sul più 5, dimmelo tu che non mi ricordo bene. No, già c'era, se l'hanno sempre messa. Però sono più bellini adesso, con pomellini grigio col tappo nero, capito? Questo giallo, questa striscia gialla dei pomellini non è che ci faceva un granché, capito? Sì, era più vile d'aspetto, però sai, la ZG lo faceva per contraddistinguere i suoi prodotti. D'altronde, anche in questo da palmo... c'ha il cursore giallo, le scrittine gialle, il tastino giallo, infatti a Gianni non piace niente, a doppio rum, non gli piace questo giallume che vede in giro. No, vabbè, io per quello da palmo ho pazienza, non importante che funzioni. No, già, l'importante funzioni. Va bene che va bene, tutto cappa. E beh, tata lì, ma a mangiare ci è andato? Ancora no, sta preparando. Come fa bravo qua? Beh, io sto iniziando adesso a mangiare. Sto iniziando adesso. Abbiamo pesce, però tragicamente non c'è maionese. Il pesce senza maionese è come il bignè senza crema. Gente, deve avere sempre un ritocco, qualche cosa devi punirsi, no guai. Non riesce a mangiare Natalie, capito? È così, è più forte di lui. Gappa. No, io il pesce, se è bollito con olio e limone, se è fritto è fritto, se è agliata è agliata, cosa maionese? Poi è cuo maionese. Ci chiede sì in America, tu mi sei in Sardegna, mi qua mangiamo porchetto. Anzi, in America non usano maionese, usano quei pasticci, sciroppo d'acero, ketchup, oppure quell'altra roba di cui non se ne ricorda il nome, senape, melassa, quelle cose lì. No, veramente, il pesce con limone già è più buono. Ma con la maionese il pesce è la morte sua, questo è merluccio poi no, ci sta particolarmente bene la maionese. Se non riaccendi con le luci di cortesia a questa cane, una cosa allucinante, c'è una lucetta attaccata alla presa che gliela lascio per quando se ne va in stanza, no? C'è la brandina anche lì. Aspetta ad accenderli, rimane nella porta ferma, se non quando non riaccendi quella lucetta non entra, ma roba la mattina. Non gli piace stare al buio totale, no? Assolutamente no, è una cosa, ma anche la piccola era così, anche la piccola. Dovevo lasciarle qualcosa accesa, qualche lampadina piccolina, qualche bajou. Infatti gli ho preso queste luci di cortesia, ce n'è una nel salone e una in camera, perché poi quando si stufa viene lì, capito? No, non li biasi, rimani a ruccio, più forte dei due. Deia. Per esempio io la luce della lavagiù l'ho sempre spenta per dormire di notte, no? Adesso sto pigliando l'abitudine di lasciarla accesa la lavagiù, per comodità, che ne so, la notte se mi serve, certe volte mi si chiudono le narici, no? Mi si chiude il naso, allora piglio la rinazina, o per pigliare l'acqua, sai, mi viene meglio con la luce. È una luce bassa poi mi, però mi viene meglio per prendere le cose se quando mi sveglio durante la notte, invece se c'è buio devo andare al tastone e accendere la luce, capito? E va bene, invece c'era un'amica di mamma, Gianna Osai, no? Che doveva avere la luce per dormire, ci voleva la bagiura, cioè, se no non dormiva, temeva a dormire tutto al buio, capito? No, ma ci sono quelle luci di cortesia, no, la bagiura mi dà fastidio, ci sono quelle luci di cortesia, si attaccano alla presa, c'è l'interruttore e tu l'accendi, fanno questa lucetta che ti illumina tutto il pavimento e niente di... infatti si chiamano luci di cortesia, le avevo prese lì a... da tutte le parti ci sono, ci sono anche i cinesi, costano pochissimo, un euro mi sembra, sono a basso consumo, lascia accesa, e io accendo quella, lui basta che veda un po' di luce nel pavimento ed è contento, se no sta andando e tornando a destra e a sinistra, capito? E permette se ti alzi, andare in bagno, vedere, dai, non truccate la buona mano del good, no, la bagiù è troppa luce fa. Mi darebbe fastidio a me, capito? Via. No, ma tanto una volta che dormono non me ne accorgo. E poi blandami, c'è una lucina. Sai cosa c'è la mia? C'è una luce da frigorifero. Quindi la lampadina dovrebbe essere a 5 watt. Tutte le lampadine a frigorifero, quindi è come che sia un punto luce, mi non credere che sia forte. Io la bagiù forte non la sopporto. poi non è proprio un bajur, è un farettino, quelli col collo orientabile, capito? È abbastanza, è apprezzabile, dai, come luce, non troppo forte. Sì, vabbè, sono quelle luci deboli che ti permettono di muoverti, dai, ma non la bajou, quelle grandi grandi, no, non fa, quelle mi darebbero fastidio anche a me. E vabbè, cosa buona è preparare di concetta, Natalie? Sì, pasta asciutta e carne con piselli, c'è, no? Sì, no, a parte anche di notte la mangi tu? No, no, io la mangio a pranzo, se no niente. Dice la mia figlia a pranzo ha fatto questi gnocchetti con pomodoro fresco, molto buoni. Infatti ce ne ho guantato un pochino per stanotte, non so se mangiarmeli. La mangio a pranzo o la mangio a cena io? Pranzo e cena, la pasta no. Voi avete un tesoro in casa? Mia figlia per me è un campione. Ho avuto il massimo dei voti in cucina quando ero alberghiero. Il massimo proprio. È stata la prima. La prima in assoluto. E poi le piace cucinare, sa cucinare proprio cose, cose buone, sfiziose, di tutto. C'ha tutto a casa lì, tutto. Tutto. C'ha il bimbi, che solo il bimbi ha pagato 1600 euro. Fa tutto, è un robot, gioco. Poi c'ha la centrifuga a parte. C'ha un altro macchinario, comunque. Immaginate che lei nel bimbi mette le verdure intere, intere, lo imposta, perché è un computer, lo imposta, e le dice tagliatele, selezionane, le taglia, le seleziona, escono già pronte per fare il minestrone, pronte. Poi se vuoi fare il minestrone col bimbi, fai il minestrone anche col bimbi, fate tutto, tutto. L'altro giorno per dirlo a te, infatti mia moglie ha detto basta perché ha paura del diabete, ma fa certe cose, quel macchinario allucinante. Io l'ho visto in un ristorante, siamo andati una volta, spedivano le pesche, e dice frutta, ho detto sì, va bene, frutta, ho detto gradite la pesca con la crema, si dice la pesca con la crema, vabbè, te lo gradiamo, ce la porti, Marco mio, una cosa allucinante, la crema pasticcera, no? La fai, tagli la pesca tutta a pezzettini, la metti nella coppetta, ci metti la crema sopra con una scorzettina di limone, cosa dite? Ma tante volte la fa la crema, tutte le settimane arriva a fare la crema papà, io, mamma mia, adesso mi hai tuffato, vabbè, la fasi, ma ci mette 2 minuti, il tempo che tu stai a dire, è fatta, pronta, immediatamente, è una cosa allucinante, chissà, la pasta per la pizza, no, che tu devi fare, è come le pizzaiolo, tu le butti la farina, le metti quello che devi mettere, 5 minuti, ti intende un campanello, din din, din din, pronta, la prendi con la mano e la togli dal contenitore, una cosa pazzesca. Eia, eia, eia, sono cose che rendono più facile cucinare, capito? Eia, eia. Natalino, intervieni, dire qualcosa, che stai diventando ingordo, Claudio, mi. Non si parla con la bocca piena. Natalino è già bocca piena, infatti. Eia, fa bene, dai. Certo, lo pensa, io ho pranzato adesso e tu stai cenando. Oia, oia, oia. Sa perché questo orologio, anziché segnare le 20:11, segna le 8, pomeridiane 11, cioè anziché le 24 ore ha cambiato in antimeridiane e pomeridiane, lo devo regolare. Ok, ma ad essere che come l'ho pulito è andato in tilt, mi. Ah, intanto ci va bene Gianni con il 60, Come Claudio? A Gianni con l'MC60 quanto ci va bene rispetto a ieri? Ehi, ma perché gliel'hanno già dato? Quello era il 60? Sì, gliel'ho dato io, gliel'ho procurato io. Mi ha telefonato avanti ieri, mi ha detto se ne avevo, ho detto no, io ne ho due, mi servono. C'è uno che lo sta dando. ieri l'ho chiamato, me l'ha portato stamattina e nel primo pomeriggio, quando sono rientrato dal lavoro, dai, all'1:30 ci siamo visti lì a... lui era praticamente sceso da muro, ci siamo visti lì alla scala di ciocca, giù, e gliel'ho dato, capito? Ah, quello era, sì, stava uscendo bene, l'importante è che non parli troppo a voce alta, ogni tanto Gianni, sai, dalla foga di descrivere, di parlare, parla un po' a voce alta, quindi può strappare. Per il resto, buono, buono, ottimo per la truppa, come dici tu. No, è nuovo, nuovo, veramente, mai usato forse una o due volte. Poi ci ha venduto la radio ed è rimasto il microfono, quindi gliel'ho fatto vendere, capito? Tutto qua. Cosa stavo dicendo? No, gliel'ho regolata, era troppo alta ieri, capito? Poi col microfono normale, attaccato alla bocca, è chiaro che quelle radio fanno così. Però gli ho fatto mettere il Mickey Game come ce l'ho io, a 1:30. Potenza 20 watt, 440, non c'è bisogno di stare, sali e scendi con la potenza, non tre conversioni. Quindi automaticamente quando lo accendi rimane sempre con la stessa potenza, non è come il 140 che devi aspettare, fare, capito? Sia il 430 che il 440 sono così, 140 sia 80 è un casino, lo devi accendere mezz'ora prima se vuoi ottenere mezz'ora, un'ora prima se vuoi ottenere la potenza che gli hai lasciato, mentre invece quelli non, 430 e 440 no, lo lasci a 20 watt, lo trovi a 20 watt, non c'è bisogno, anche a freddo sempre 20 watt. Va bene, domani, domenica, cazzo già vedo più rumore, si è sentito stasera, deve essere a ciullare. Eia, eia, meglio per lui, da. Ci ho soffiato il naso, mamma mia, è uscito il mostro di Alien dal naso. Questa voce nasale mi dà fastidio, non mi dovrei operare. Per il setto nasale deviato, però che palle. Ho sempre paura della sala operatoria. Non mi è mai piaciuta. Non proprio. Mi impaurisce la sala operatoria. L'anestesia, vabbè, l'ho fatta già due volte, quindi non sono allergico. Però vedere la sala operatoria, mamma mia, mi mette i brividi. E anche mia moglie ha deviazione del setto nasale. Fastidio, neanche lei ha paura, capito, per poi le conseguenze, dolore dopo, dolore prima, mamma mia, lui è, sai, avevo voglia di andare a mangiarmi una bella pizza stasera, però quella di Ivan, ma è troppo lontano, ho fatto detto a mia moglie, non ci andiamo, guarda, perché è troppo lontano, una spacchinata, se fosse stato qua a Sassari ci sarei andato ogni settimana, che buona la fa, tutto devo dire, però... Come pizzaiolo è 10, eh? Eia, è vero, sì, troppo lontano, anche io glielo ho sempre detto. Ehi, potevate andare da qualcun altro a Sassari, non lo so, anche via Gorizia, mi da, come si chiama, la lanterna, com'è? La lucerna, com'è? Lucernaio, possiamo andare noi, sì, è buona, ma non come quella di fa. Marco, io, guarda, ad Alghero tutte le migliori pizzerie, se tu vai al Paguro a Fertiglia è favolosa la pizza, però come la fa Ivan, a parte la grandezza, ma il gusto, la pasta, non lo so, il condimento, poi ci mette un bel di mozzarella, è buonissima quella pizza, solo andare a Ghittura, a Campanella, non è facile, mamma mia, mi sfacchinate lontano, mi rassassi, e fare tutta la devi andare a Porto Torres, dallo scorrimento veloce, poi non aggiungo. Fatto mio uovo, se la voglia, ce la prendiamo a casa, ma non la voglia andare a mangiarla lì, allora niente, nulla, te infatti sta preparando, e fra un po' ceniamo. Magari dopo mi vado un po' dell'aria, ascoltare un po' di musica, non lo so. Vediamo, se non Giovanna, se non mi trovo, perché dopo cena Marco, mi traio dal divano così, a guardare la TV, cazzo, mi addormento, non c'è niente da fare. Lo so, dopo cena lo fa. Ascolta, è una via di mezzo, non avete detto che a Porto Torres lì a San Gavino si mangia bene? se la pizza è buona potete andare lì, poi sai, non isolato almeno, e in città, insomma. Eppure me l'avete messa in testa, ci dobbiamo andare a San Gavino, lo sai, ci dobbiamo andare. Ci organizziamo, quando la gente è disponibile, io ovviamente probabilmente prenderò pizza, dai. Andiamoci, Gianni l'ha detto, andiamoci la prossima settimana, cosa volete dire? Andiamoci, tanto hai già preso la pensione, tu quindi, anche Natalino ha preso la pensione. Andiamoci la prossima settimana, facciamo Valerio, ci andiamo, facciamo Massimiliano se vuole venire, assegniamo pizza, mi pare che non ne mangi, ci prende qualche altra cosa, non lo so, facciamo la greffetta dell'altro giorno e andiamo, l'altra volta, capite? Per me non c'è problema. È buona anche a lucernaio, anche perché a lucernaio c'è anche la farina, quindi la farina mi piace tantissimo. Qui, fatto voi, non ci picchia ordine la farina, non ho mangiato farina stanotte. Lucernaio è buona, sia la pizza che la farina, quindi se non vogliamo scendere a Polottose possiamo andare lì, oppure se Gianni ha detto che vuole andare a Polottose, andiamo a Polottose, qual è il problema? Valerio lo faccio venire qua e andiamo assieme. Per non stare a... non c'è problema. Eia. Sì, io bene o male ho mangiato bene anche lì, non è... io ricordati che sono, non mi lamento, a meno che la pizza non sia proprio cattiva. Una volta da quello di Polottore, come si chiama, c'ero io, Ivan e Marilena, no, abbiamo preso a trasporto. Sapeva di plastica bruciata, proprio mozzarella bruciata, quella la pasta non era buona, non era buona, l'abbiamo buttata, una cosa incredibile. Come si chiama? Mannaggia la... A Polottose c'è un bel... I migliori sono Piazza Garibaldi e a San Gavino, però c'è anche Salomo che la fa buona, cosa, come si chiama? Massimo, lì a, se non mi ricordo, al villaggio Satelliti, mi pare il villaggio verde, non lo so. Come si chiamava quello che faceva le pizze acrobatiche? Ciria. Sì, Massimiliano Ciria, Piazza Garibaldi, ed era cattiva la pizza. Guarda, sarà che era da sporto, la pasta non mi piaceva niente. Era ben lontana da quella, non solo di Ivan, ma anche di altre pizzerie. Poi sapeva le plastica bruciata. Ed era la mozzarella. Non ci piace. L'abbiamo buttata, tutti e tre. L'abbiamo mangiata fino a poi più della metà l'abbiamo buttata. Poi chiedi a Ivan se non è vero. C'ero io, lui e Marilena, che era una che frequentava con noi. Ma Marilena chi? La lesbica? Ah? Marilena là? La lesbica? No, chi è Marilena la lesbica? No, anzi quella Marilena, a Marilena piaceva Ivan, capito? No, chi era la lesbica? No, io di lesbica conosco la sorella della ragazza. Oh, era un po' sempre con l'amica, mattina, sera, pomeriggio e notte. Come si chiamava la sorella di Valentina? Porco Giuda, non me lo ricordo. Ma grazie a te, c'è. Non è. No, Marilena già ciuppava con Ivan, a voglia si acciuppava. Non me lo ricordo neanche io, ci siamo visti da poco con Ivan ed era... appunto si è fermata, come la conosco. Sì, beh, quella è dichiarata, no? Perché sia una vergogna, no? Come gay, la stessa cosa. E gli piacciono le donne, e non ha il ragazzo, ma c'è una ragazza. E anche buona bulo è la ragazza di questa qui. Abbiamo vista con Ivan Dover, forse l'Erospina abbiamo vista, sì. Non mi ricordo come si chiama. Ci vediamo spesso a Piazza dei Segni, lì da Rosi, quando io vado a prendere il caffè, ma era domenica mattina, magari anche domani mattina, c'è. Non mi ricordo come si chiama Cipicchi. Nemmeno io. Beh, io conoscevo la sorella di Valentina, che era un po', appunto, sempre con questa ragazza. Quando le vedi sempre assieme, sempre solo con lei, si pensava che fosse sì, ma A me mi arrappano da morire le spicche. Guarda, in questa zona ce n'erano due, che un giorno si stavano tutte toccando, mettevano giù quella di Deva, insomma, stavano baciucchiando, io ero da dietro i forellini della persiana, guardando, al letto. Ah, zitti, dietro. Lo guardo e vai. Ognuno c'ha il suo. Se guardi la trasmissione di Maria De Filippi, c'è un tronista gay, ad esempio. Quindi anche alla TV oramai è così, ma non è niente di che. E purtroppo ci sono anche queste cose, va bene lo stesso. Ricordo come si chiama, no, in gamba mi è un bel toga, è un masciumaro, però è toga, fa assistenza agli anziani mi sembra, o dove cacchio lavoro. Comunque è amica Riva, ma la conosco anch'io, perché tutto questo, no, già ci conosciamo, ti preoccupare, ma non mi ricordo come si chiama. Porca mi sembra non chiamare a Riva, mi sta lavorando, se no io l'avrei detto. Insomma, se vogliamo, mi dice, ma non scendi, aiuto, vieni, mi ti lascio il tavolo, mentre ha fatto l'altra volta. Te l'ho chiamato, non so per che cosa. E mai poi io scendi, era di venerdì. Aiuto, scendi, che non c'è nessuno, ci sono poche prenotazioni stasera, io scendi. Cazzo, la tua mia moglie, ti accendiamo, metti, preparami un tavolo per due, stiamo scendendo. Sono sceso, c'è un po' con i getti polottosi, era pieno i getti polottosi di Sassari, ci vanno un bel lì, capito? Perché la pizza, ti ripeto, è molto molto buona. E siamo andati, quindi se riusciamo a rompere il cazzo, io scendi, mi sembra che no, era quest'ora, sono arrivato che erano più delle 9, quindi mi sembra che era quest'ora più delle 8, 8 e mezzo, 8 e un quarto, una cosa del genere. L'ho chiamato per sapere come stava il padre, però mi sono dimenticato che lui venerdì era al lavoro, capito? Ma no, non mi disturbi, ha messo l'aiutante, io impatta tu che io sono al telefono. Anche a Marco che... Eia, allora guarda, se la sorella di Valentina è un po' bassottina, no? Io so che si chiama Loriana, sei lì. No, me lo ricordo, non me lo ricordo. Comunque c'è un po' di confidenza con il fatto. Sì. Guarda, se domani, se intanto vedo, domani mattina ci vediamo sicuramente. Perché va lì alla casetta, no, già lo sai. Allora che vado io a fare il caffè, vedo già la casetta a Punigettoni, capito? Glielo chiedo a vedere come si chiama, poi te lo dico. Sì, guarda, sei la sorella di Valentina, l'ex ragazza di Ivan, la sorella si chiama Loriana e lavorava all'autolavaggio della piazzetta. Io lei conoscevo di un po', pseudo-lesbica, dai. Meglio così, dai, almeno si diverte. Va bene, però bene, prendete la gomma di vostra madre, sono le 8:30, mi stacco, mi fa male la schiena, sono facendo la quarta mia moglie, un po' di volta, perciò questo fianco mi fa male, non so cosa cacchio è, vabbè, poi con Filippo faccio sempre acrobatia, tira bogo, mamma mia, gatto. Quando invece si scatena, proprio fa lo mollato, comincia a correre a destra, a sinistra, un coso e barriera. Sì, solo che poi quando vede gente le va sopra, capito? Prima le abbaia, poi si avvicina e scodinzola, c'è un guaccio. Va bene Marcoli, dai, ti saluto, ci sentiamo domani, qui lascio il baracchino così e il resto è tutto spento, così domani viviamo di nuovo questo, facciamo due chiacchiere con questo, ormai ce l'ho davanti e lo accendo ogni tanto, la verità, però mi piace più usare gli altri. Già va bene anche questo, va. Ciao, saluta mia mamma, ci sentiamo, ciao Natalizia, si è l'ascolto, ciao anche a Concetta e chiunque fosse su dieci, dai, buonanotte a tutti, a domani, ciao. Ciao Cla, saluti anche la Concetta. Grazie Tatali, altrettanto, ciao. Ciao Claudio, buona serata con tutto. Dai, sentiamo domani, dovremo... Tanto guarda, se andiamo a Platamani o presto. Perché tanto poi fa buio, quindi dovrei esserci al baracchino. Ciao, anche Natalino. E lo stesso saluto in famiglia, ok? Buona serata a tutti. Ciao, ciao. Ciao Marco, altrettanto, va. Ciao, ciao Marco, ci sentiamo domani, dai. Facciamo un'altra chiacchierata. Ciao a tutti, buonanotte.